24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Rock in das Maracana! E la Germania è campione del mondo! 24 anni dopo il 1990, ancora contro l'Argentina, ancora per 1-0! Vabbè, è così. La Germania. Ma io ieri ho guardato la partita nella quale non tenevo nessuno. Ho detto, ma vinca il bel calcio, vinca. Tanto chi se ne frega tra l'Argentina e la Germania. Invece voi eravate di quelli che la Germania, basta la Germania, al rigore, basta la Germania che deve vincere, basta la Germania che deve trionfare sempre. Che musica tedesca, secondo me la Merkel dopo questa musica tedesca che le abbiamo messo ci bombarda, non lo so, fa qualcosa, ci ritira quattro ambasciatori. Voglio salutare subito Vincino, ciao, come stai? Tu ti favi? No, veramente non ti favo inizialmente. E poi? Poi a un certo punto Germania. A un certo punto pensavo che vinceva, mi stavo pentendo di non avere scommesso per l'Argentina, che la davano una 7, una 6. E poi invece ho fatto bene. Hai fatto bene a non scommettere. Mi sono reso conto, sì, che erano proprio là, vomitavano, facevano delle cose terribili in mezzo al campo. Si sono mangiati 14 gol gli argentini. Sì, sì. Beh, anche i tedeschi, insomma, qualcosa. Ma insomma, mangiati come gli argentini, no. No, Higuain, mamma. Fatto sbagliare, come avevamo messo 2-1 per l'Argentina, con gol anche di Higuain. Ma come ha fatto a sbagliare quel gol dopo 10 minuti? Porca miseria, insomma. Anche Palacio là, questo. Palacio, come si chiama Palacio? Palacio. Vabbè. Voglio salutare subito anche Vladimir Luxuria. Buongiorno, benvenuta. Come stai, Vladimir? Guten Morgen. Eccola lì, subito sul carro del vincitore. Sì, subito, molto, subito. Molto renziana come cosa, subito. Molto renziano. Vediamo se moriamo renziani o tedeschi, quindi. Infatti. Finalmente parleranno tutti bene della Germania in questi giorni, non lo so. Non lo comunque so. Guten Morgen. Non lo so. Sì, ma poi ci sono queste metafore. Ieri a un certo punto, quando l'arbitro italiano ha ammonito uno, dice: finalmente un italiano che ammonisce la Germania. Solo per oggi. Questa era una battuta di Spinoza. Sì. C'è tutta... Non ha espulso nessuno. Non ha espulso. È esatto. Un pezzo di pane questo vittorio. A proposito di nomi strani di calciatori, c'era in campo anche De Michelis. E ogni tanto la vista ritorna campo De Michelis, è vero, anche se gli argentini lo chiamano De Michelis, sai che loro c'hanno Palacio, De Michelis, Mascherano chiamano anche Mascherano, per noi Mascherano. Vabbè, Vincino, che mondiali sono stati? Sei stato contento? Sei soddisfatto? Ma poi alla fine, come dire, più o meno quello che aspettava, non niente di che, insomma. Ecco, niente di che, ma dai, su un po' di entusiasmo. No, il Brasile là era una squadretta carina, divertente. Ma come il Brasile? Ma se ci mettiamo io, te, Vladimir Luxuria e altri sei, ne facciamo 5 al Brasile. Più o meno al Brasile, le ultime due partite. Dai, su. Però Messi che vomitava là, quello è stato uno spettacolo terribile. Ma no, ieri doveva fare di meno lui, veramente. Ha vomitato ancora. Ma sì, lui guardo Giorgino De Luca, aspetta, guardo Giorgino De Luca che ci assisterà dalle 6 del mattino al posto di Miriam Lucchetti, di, mi fa segno, sì, ha vomitato ancora, io non l'ho visto, ha vomitato ancora. Messo. Sì, sembrava come i gatti quando si leccano il pelo e poi dopo lo vomitano. Vabbè, c'è questo problema, va bene. Saluto Giorgino De Luca, come detto, saluto Peter Bescapè in regia e soprattutto do ufficialmente il via all'inizio alla 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché 63esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Sapete che ieri, anzi apriamo il Parlamento, vai, così possiamo aprire. Sapete che ieri vi giuro, ho visto il TG5 in un momento in cui non guardo i telegiornali da mesi, non trovo più nessun interesse nel vedere alcun telegiornale, ma ieri sono capitato sul TG5 e niente, e ha detto si apre domani la settimana decisiva per le riforme, giuro Vincino, hanno detto così, te lo posso giurare, guarda qui. E poi oggi legge il giornale e dice la riforma del Senato deve fare due passaggi alla Camera, due passaggi al Senato. Quattro passaggi. Sì, devono passare tre mesi dal primo e il secondo passaggio. Semplici. Sì, esatto. Tra il primo e il secondo passaggio alla stessa Camera devono passare almeno tre mesi. E più quindi... Mineo, più colpa, donna, un disastro. Ce l'ha con Mineo. Ma no, ce l'ho con Mineo, non è che ce l'ho, lo conosco da 40 anni. Dai, insomma. E allora che ci devo dire? E che ci devo dire? Che è un disastro, dai, l'Italia che blocca, come dire, che io me lo vedo ogni giorno, va ogni giorno in televisione, ha un minibus ad Agora, a PDP, a cosa, cioè se le fa tutte, anche da te è venuto, esagerato, dai, esagerato. Dai, un po' buono. No, ma questo è un po' buono. E poi dice sempre, ah, io a Renzi voglio bene, lo voglio evitare, ma io voglio evitare. Ma che disgraziato? Sì, dai, ma Vladimir, ma vuole silenziare. Come Totorina, cioè adesso Mineo come Totorina adesso. Poi si faceva Totorina, ti voglio bene qua, su non trovo, paf, e l'ammazzava. Dopo averlo tranquillizzato, l'ammazzava. Questo la devo subito twittare. Vladimir Luxa, di qualcosa a te che vuole silenziare l'opposizione. Così. Ma non voglio silenziare l'opposizione. Ah sì, sei autoritario. Tutti i giorni di là, un disastro della comunicazione. Vladimir è autoritario, autoritario, che devi fare? È autoritario. Ma ci penserà Renzi a silenziare tutti, l'ho detto, troverà un posticino un po' a tutti, li accontenterà tutti e saranno tutti felici e contenti. Eccolo là. Tutti felici e contenti. Bravo. Però ragazzi, qua c'è il mondiale che incombe, noi siamo in collegamento con... Vincino, Vladimir Luxura, siamo in collegamento con il nostro Pierluigi Pardo dal Brasile. Pierluigi, che ore sono intanto? Pierluigi! Che è? L'una e mezza, ma dico, ma c'avete un'energia per essere 6:30 del mattino? Ma io veramente a quell'ora lì... Vabbè, russo lo so. E basta, sono colpito dalla tua vitalità. Allora, che ha detto anche la Merkel? Le prime dichiarazioni, Pierluigi, ci asfalta tutti, no? Basta. Ho detto anche la Merkel, è saltato tutto, vedi le spie americane, io lo sapevo. In America ho visto anche la Merkel, la cosa ha cominciato a tifare l'Argentina. Guarda, ho avuto lo stesso pensiero, porca miseria, quando l'hanno inquadrata, ho detto no, di colpo gli argentini mi sono diventati simpatici. Anche gli agenti della CIA, quelli della CIA tu hai detto, sì, adorabili. E sono quelli che avranno fatto saltare la comunicazione con il nostro Pierluigi Pardo, ma insomma adesso proviamo a recuperare la linea, voglio capire che ha detto anche la Merkel. Poi ha questo modo di esultare, c'è sempre molto... Sì, un po' in ritardo, devo dire, perché sembrava che si guardasse un po' intorno per dire ma era un fuorigioco, era un gol vero, no? Sai, bisogna che una cancelliera prima deve essere sicura. Deve essere sicura. E poi anche... Un po' dimagrita, devo dire, anche probabilmente i tagliere le stanno. Che giudizio estetico di Vladimir Luxuria ad Angela Merkel. Sì, però Vladimir lo vedrei come premier italiano io là. Vladimir Luxuria con Angela, assolutamente. No, oh, Vladimir Luxuria e Angela Merkel si incontra. Ma io al posto di Renzi la farei, insomma, ambasciatrice di... Al posto di Putin, magari, che era lì. Al posto di Putin. Va bene, abbiamo recuperato. Pierluigi, dove sei? Ho nominato Angela Merkel, sei caduto. Ma chi è? Anche la Merkel, che pare non sia alla festa, c'è una festa blindatissima dei tedeschi, se sentite male, perché praticamente siamo nella Avenida di Meyer, che è una delle strade più belle di Rio de Janeiro, sotto la favela di Virigal, tutta curva e tornanti di fronte all'oceano, dove c'è l'albergo della Germania. Ah. Festa blindatissima, non c'è Angela Merkel, che sta già pensando allo spread, perché è già lunedì mattina, le borse, come aprilano, eccetera. però i tedeschi lavorano, mica. Dai, no, infatti ha festeggiato due minuti, esatto, ha festeggiato. Due minuti e mezzo, grande entusiasmo. No, però insomma è una grande vittoria che è proprio frutto della programmazione. Devo dire che nei festeggiamenti molto sobri ho visto un po' anche questa sintesi qui, no? Che comunque alla fine sono veramente progettati per vincere, per to deliver, come direbbero. Bravo, a me è impressionato Pierluigi, ha impressionato l'ingresso in campo quando li incontravano nel tunnel degli spogliatoi, ridevano. Risorridevano tra di loro, si abbracciavano, cioè, tu ti immagini noi italiani, no? quando sta, ma anche gli argentini, giustamente, tutti concentrati, ridevano, sorridevano. Poi, per carità, è stata una partita molto equilibrata, ha rischiato anche di perdere, non è che... Sì, ha rischiato di perdere. Devo dire che secondo me meritano il mondiale per quello che hanno mostrato in tutta la competizione. Oggi, o meglio, ieri, poi ancora è l'una di notte, quindi ancora il concetto di oggi va avanti in Brasile. Devo dire che se la sono vista brutta, insomma, nel senso, comunque l'Argentina ha avuto due palle gol molto importanti, è stata una partita più equilibrata di quello che si poteva magari pensare, che qualcuno pensava, però ecco, veramente anche qui nel calcio, no? Poi c'è una sintesi che può essere utile per ogni settore della vita umana, perché comunque questa vittoria è una vittoria frutto della programmazione. Loro nel giro di qualche anno hanno lavorato sui vivai, hanno lavorato sugli stadi, ovviamente con il contributo di Germania 2006, che è stata un po' diversa da Italia 90, tanto per capirci, a livello di stadi e di denaro pubblico utilizzato, e hanno fatto una grande squadra, ed è anche dal punto di vista, se vuoi, invece più sociale, la vittoria della Germania multietnica, multiraziale, perché questa è una storia molto diversa. Cioè, negli anni 80 c'era la classica squadra dei Panzer, tutti alti 2 metri, biondi. Oggi è una squadra che invece vive di contaminazioni giamaicane, africane, polacche, insomma è molto diversa rispetto al passato, e anche le caratteristiche tecniche, calcistiche di questa squadra sono molto diverse, nel senso che non sono più soltanto, non è soltanto la squadra Sturm und Drang, no? Una squadra che ha anche un talento e una tecnica quasi latina in alcuni giocatori. Ozil, ovviamente origine turca, è da questo punto di vista proprio un giocatore con una tecnica e un'inventiva slava. Tra l'altro, nel salutarti, quello che rimane col passato, caro Pierluigi, sono i fiumi di birra, immagino. Quelli... Sì, anche se devo dire che Brasile e Germania in realtà è stato il derby della birra, perché magari non tutti sanno, il consumo di birra in Brasile è una cosa fuori dal mondo. Come fai a saperlo? Perché qua il Shopi, come si chiama Shopi, che è la birra alla spina, viaggia su ritmi assurdi. Questo pare sia... No, noi pensiamo al paese del caffè. In realtà il caffè fa schifo, caffè nero potente, canterebbe Fiorella Vannoia. E invece la birra è buonissima, è la faccia di bevanda nazionale. E questa è la cosa che più ti porterà nel cuore dal Brasile. Esatto. Allora, però, Pierluigi, ho visto il tuo straordinario servizio su il Costa Rica o la Costa Rica. Abbiamo appurato alla fine, come si dice, questa maledetta nazionale, il Costa Rica o la Costa Rica. Veramente la crusca, poi l'Accademia si è veramente, non sto scherzando, si è espressa e ha detto che possiamo fare un po' come ci pare. Sì, in realtà il paese è la Costa Rica, però insomma spesso le squadre di calcio hanno un genere diverso rispetto, so che tra l'altro in Italia questo tema del genere è particolarmente, mamma mia ragazzi, la presidenta. Fra l'altro, a proposito di questo, insomma, da sottolineare che abbiamo giocato questa finale mondiale in un paese con un presidente o una presidentessa donna, fra due nazionali che hanno tutte e due insomma il primo ministro donna. No, ma infatti. Allora, poi, Pierluigi, alla fine poi la parità è più sulla sostanza che non sulla forma. Ma infatti il tema è questo. Guarda, io intanto nel ringraziarti, ovviamente ti lascio i festeggiamenti, cerca di intrufolarti nella festa tedesca e ruba qualche un po' di birra. E grazie per Luigi Pardo per essere stato con noi. È all'1:45 ormai di notte in Brasile. Sentite ancora com'è squillante, caro Vincino, senti un po' come festeggia ancora. Ecco, ha introdotto questa cosa della presidenta. Guarda, io, ha mamma detto mia. Un sacco di filosofie così di quarto grado, di queste qua, banalità sui tedeschi, sui costi, insopportabile, no? Mentre la corazzata, la Grazie Vospì si riporta la Merkel insieme ai suoi 15 botte in Germania e vaffanculo, spero che ora ne avremo per 10 giorni su questa Germania. Certo, la Germania, quello che ha lasciato i panzer, il DNA, quello che ha lasciato il DNA dappertutto sul campo, poveretto, tutto sanguinante. Ma l'eroe c'entra, ma che c'entra? Lascia perdere. Allora aspetta, che devo twittare questo. Devo twittare questo, poi devo andare al traffico. Vincino dice: Mineo, che dice di Renzi? Io gli voglio bene. Fa come Riina, prima l'intranquillizzava e poi pam. Ti piace? Sì. Posso twittare? Risponde abbastanza fedelmente al tuo pensiero. Allora, anche quella della corazzata Graffio Spico. Vabbè, ma che ti frega? Andiamo al traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Alina, salvaci tu. A Roma i palazzinari hanno ottenuto infami permessi e stanno distruggendo un sito archeologico che vale oro turistico per costruire ancora case di lusso, così la crisi abitativa resta e un'area di pregio archeologico adiacente alla più antica viene distrutta. Martina, dove stai? La PAC, devi fare la PAC, noi non possiamo seminare, non sappiamo cosa fare, perché se tu non fai la PAC, noi non riusciamo a fare nulla. Turò, nella disobbedienza civile, dice che la rivolta è un diritto dei popoli. Aggiungo io, purtroppo gli italiani non hanno le palle per esercitare tale diritto. Ma a me mi sembra che Israele non ha imparato niente di tutto quello che è successo, perché quando uno Stato vuole essere molto superiore, succedono le dittature, anche perché il terrorismo si annida dove ci sono le ingiustizie. Alino, ti gade a dire al signor Galan che non gade aver paura, una settimanella di prison con dell'utri che lo darà tutti i libri che vuol, e poi ai domiciliari, e che domiciliari! Vabbè, questa è la lettura su Galan. Galan che in questo momento è in ospedale Vladimir Luxuria, perché si è rotto tibia e perone e poi gli hanno fatto il gesso un po' stretto, quindi tromboflebite, credo di aver letto sul Corriere della Sera, attenderà lì in ospedale. Quello che vabbè questo mi dispiace, anche se io in questo momento mi sento di esprimere tutta la mia solidarietà al Costa Rica o alla Costa Rica, ecco, che non si sa se declinarlo al maschile o al femminile, esatto, perché so cosa vuol dire sentirsi declinati al maschile e al femminile, quindi in questo momento voglio pensare alla e al Costa Rica. Alla e al Costa Rica. Allora, ecco, invece, sì, la presidenta. Adesso, Vladimir Luxuria, ma dimmi te, se una presidenta o presidente della Camera deve... Ma la parità passerà attraverso queste cose? Io l'ho detto provocatoriamente su Twitter, ma chiamatemi pure la giornalista Alessandro Mila, non me ne frega niente, cioè... O è importante, Vladimir Luxuria, è importante. Suona bene, il presidente, la presidente, cioè questa è un finale che può essere maschile e femminile, non è ma infame, sì, ma voglio dire, ma allora l'elettricista come la mettiamo? Vincino, tu che sei... La vignetta? Io la vignetta è stupenda, ma è meravigliosa, non è che... Però è il vignettista. Il vignetto non fa bene. Tu sei il vignettista. Vabbè, perché sono di quell'altro genere, ma così, no? Invece io voglio dare la mia solidarietà a Lussuria che abita in un quartiere che se lo trovo occupato da qualche anno. Lo so, ne abbiamo parlato l'altra volta. Però sentite Laura Boldrini, dai, sentite Laura Boldrini, poi dopo chiediamo a Luxuria come va. Laura Boldrini. Questo che io sempre in aula sottolineo il fatto che io a un deputato maschio non mi rivolgo a un deputato maschio dicendo signora deputata, ma deputato, e mi aspetterei, ecco, da parte dei deputati la stessa cura, cioè del rivolgermi la parola come presidente, signora presidente, la presidente, non al maschile come spesso succede. È partita questa campagna, Vladimir, ha ragione, per Vincina ha ragione, per te Vladimir ha ragione? Ma si può dire la presidente, secondo me non è neanche cacofonico, sono d'accordo, nel senso che perché dire solo il presidente? Si può dire la presidente. Ma sì, ma infatti, ma diciamolo, ma non è che adesso io dico il presidente a posto, a volte abbiamo delle ministre donna e dico ministra Emma Bonino, ministra, buongiorno, ma sì, ma saranno cose importanti. La Boschi è bellissima, ministra, meravigliosa. Che no? C'entra, subito alta, bellissima. Alta, bella, stupenda, no? Grande riformatrice. No? Sei innamorato della Boschi? Assolutamente sì. Ah, ecco, appunto, insomma. Ma sei più innamorato della Boschi o di Renzi? Perché sei salito sul carro del vincitore anche ma tu. Ma guarda, di tutte e due, li ho anche fatti tutte e due insieme, devo dire, nella loro storia. In che senso? Vai a vedere il libro a pagina non so quanto. Ah, ecco, è il momento, è il momento della promozione del libro. Comprate il libro di Vincino, ricordami come si chiama? La cavalcata. La cavalcata. Cairo Editore, 4,90 euro, in tutte le edicole. Cairo Editore, che ricordiamo, e Cairo che è il migliore editore al mondo. Assolutamente sì. Il migliore editore al mondo. Ecco, sta sprecando un po' di soldi ultimamente, devo dire. Che col tuo libro? No, col mio libro no, con la televisione qua e là. Ah, con Floris, con Floris. Floris, madonna mia, esagerato. Ma, no, ma come, madonna poteva prendere 43 Vincino al posto di un Floris. Sarebbe stata meglio, va bene. Quante Vladimir Luxuria poteva prendere? 10 Vladimir Luxuria, ti accontentavi di 400.000 euro dunque, Vladimir. Fatti i conti in fretta, 4 milioni diviso 10, 400.000. Ma perché tu non ti accontenti di 400.000? Di fare un programma il martedì sera. Ma è chiaro, ma è chiaro. Vabbè, ma insomma, Vladimir Luxuria, come va la convivenza nel quartiere con questi gentili signori che ti ritrovi ogni giorno? Ho anche incontrato il questore, la situazione è sotto controllo, però certo non si può dire che si è risolto. Bisogna stare sempre un po' allerta, ma insomma, sto bene, sono tranquilla, e non mi penso di aver fatto quello che ho fatto. Allora io vi voglio far sentire un audio. È un audio di una telefonata. Qui entriamo in un tema molto molto delicato negli ultimi 3 minuti, perché mentre noi ridiamo, scherziamo, giochiamo eccetera per iniziare la giornata con un sorriso sulle labbra, invece in Medio Oriente sappiamo ci sono le bombe e ci sono i razzi, c'è la guerra vera e propria. Allora sentite quest'audio di una telefonata che è in lingua, in lingua originale. Ovviamente non capirete, immagino, se non siete in lingua, non so neanche se è in ebraico, immagino in ebraico oppure in arabo, non lo so. Comunque, credo sia in ebraico, in questa telefonata l'esercito israeliano avverte con la telefonata: guardate che avete 5 minuti perché abbiamo bisogno di bombardare il sito dove siete voi vicini, avverte i civili di Gaza e poi arrivano i bombardamenti. Ora Vladimir Luxuria, qui stare a decidere chi ha ragione, chi non ha ragione è la cosa più brutta che noi potremmo fare, però che pensi di quello che sta succedendo? Allora, io sono sempre dell'idea due popoli, due nazioni, questa sarebbe la soluzione, però sinceramente quando vengo a sapere che insomma vengono bombardati addirittura gli orfanotrofi, o si tenta di bombardare gli orfanotrofi dove si trovano quei ragazzini orfani dei genitori morti già con le guerre, mi viene davvero un sentimento. Ma attenzione, perché anche lì dicono che la notizia sia falsa, sia stata diffusa ma sia falsa, smentita da una parte e dall'altra. Cioè, per carità, io non lo so, non siamo lì, non possiamo sapere. Non lo so, Vincino, tu no, che... non lo capisco, però potrebbero anche smettere da Gaza di tirare 100 razzi al giorno, certo, e altrettanto certo da Israele di telefonare, come dire, quelle telefonate sono terribili. Io stamattina quando sono stato sul telefono, eravate voi, numero privato, ho avuto il terrore là. Dai, su. Ma sì, no, guarda che è pazzesco, chissà quanti scherzi faranno pure là telefonici. Terribile, cioè, è così. Vincino si occupa di Satria. Dai, Vincino, no, Vincino, fai il bravo su questa cosa. Ti devo reprimere, ti devo redarguire. C'è il terrorismo dei social network pure in tutto questo. Che sono tutti i telefonini con i Twitter per vedere. A volte mandano anche dei Twitter anche un po' di allarme, perché la gente vive continuamente con questa angoscia. No, è così. E quindi, nonostante Vincino faccia satira, è sempre così. È un malandrino. Malandrino, no. Vincino. Stavolta Vincino malandrino. Te la potevi risparmiare questa? Va bene. Te la potevi risparmiare questa? No, davvero. Sì. È dai su. E dai su, lì c'è la guerra però. Vabbè, dai, ci fermiamo qui. Ringrazio, vi ringrazio Vladimir Luxuria, Vincino, alla prossima. Ora c'è il giornale radio, poi rientriamo dopo con la rassegna stampa. State con noi. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:17, cari italiani, si è ormai aperta ufficialmente la 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché decisiva per l'abolizione delle province. E ieri diceva al TG5, l'ho sentito con le mie orecchie, non ci volevo credere, edizione delle 20, ha detto ieri, domani, cioè oggi, si apre la settimana decisiva per la riforma del Senato. Vabbè, è ufficiale così. In realtà sappiate, cari ascoltatori, che ci vogliono due letture alla Camera, due letture al Senato, a distanza di almeno 3 mesi dalla prima alla seconda lettura nella stessa Camera per ottenere la riforma, se tutto va bene. Ecco, voi ditemi questo, se in una settimana, cioè questa, in cui inizia l'iter della riforma del Senato, si può definire decisiva. Va bene, comunque 63esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Oggi noi parleremo invece un po' di mare, la situazione degli stabilimenti balneari che ogni anno si ripone questo problema. Vengono affittati dallo Stato agli stabilimenti balneari che pagano poco rispetto a quello che incassano. Questo almeno si evince da alcuni dati, giro d'affari pari di 2 miliardi nel settore del turismo e lo Stato incassa pochissimo con gli affitti, solita polemica, bisognerebbe chiedere di più agli stabilimenti, gli stabilimenti dicono no, non è vero perché non abbiamo le concessioni a lungo e insomma ne parleremo alle 8:15, parleremo anche un po' di quello che succede alla riforma del Senato e parleremo poi dalle 9 alle 9:30 anche di un tema molto delicato, le molte persone che si convertono alla jihad, alla guerra santa contro l'Occidente. Lo faremo dalle 9 alle 9:30 in un momento in cui tra l'altro è un momento di guerra in Medio Oriente. Questo è il menù degli argomenti, ora andiamo a sfogliare i giornali che trovate in edicola. Questo lunedì 14 luglio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, come avete sentito nel servizio di Mauro Meazza, che poi ritroveremo, ecco la mappa dell'Italia in crisi, questo è il titolo, con le classifiche del Sole 24 Ore, 7 anni di crisi, dove hanno inciso di più, provincia per provincia. Poi la guerra in Medio Oriente, Corriere della Sera, civili in fuga, si tenta la tregua, questo è il titolo. Per Repubblica, bombardata Gaza, migliaia in fuga, l'ONU chiede la tregua. L'Unità, Gaza, fuga dalle bombe. Mentre le riforme, il Messaggero ha un'intervista al ministro Boschi, immunità via solo se c'è intesa, questo è il titolo di prima pagina del Messaggero. Per La Stampa invece riforme in aula, ultimatum di Grillo a Renzi. Il Giornale mette invece il processo Ruby, la verità di Berlusconi, vengono pubblicate le dichiarazioni del Cavaliere ai giudici che dovranno decidere in appello. Ma io voglio partire da altre notizie, come quelle che mi hanno incuriosito sul Corriere della Sera. Riccardo Bruno intervista la professoressa docente di chimica a Messina, docente nel corso di biologia marina, che è diventata famosa perché si dice da lei gli studenti vengono tutti bocciati. Il tema potrebbe essere poco interessante, in realtà questa professoressa, questa docente universitaria viene intervistata e lancia alcune tematiche molto interessanti da affrontare. La professoressa severissima e il record di bocciature, odiatemi ma studiate, dice lei dei ragazzi non sono capaci di studiare. Eccolo qui, la mitologia studentesca messina narra di un ragazzo che si è presentato 43 volte all'esame di chimica e per 43 volte è stato rispedito a casa. Ripetere quel benedetto esame per almeno una dozzina di volte sarebbe quasi una prassi. la docente in questione Sandra Lo Schiavo, docente di chimica generale e inorganica nella corso di biologia marina all'Università di Messina. Lei smentisce le proporzioni della mattanza di studenti, dice il 60-70% si siede al preesame, 10 domande scritte su tutto il programma prima dell'orale. Le potrei far vedere i compiti, li conservo tutti, roba da mettersi le mani nei capelli. La professoressa non è tipo da dispensare regali, i ragazzi sono terrorizzati. Lei dice: posso solo dire che l'intero corso di laurea mi ha sempre appoggiato. Guardi qui le lettere, un professore da Padova: cara collega, ti capisco e ti invito a mantenere la linea del rigore. Un altro: mio nipote ha finito con ottimo l'alberghiero e non sa tritare neanche uno spicchio d'aglio, tantomeno parlare le lingue straniere. Ecco, la professoressa dice... per esempio, questo ragazzo che di me ha detto chi la professoressa deve essere sponsorizzata dalla Red Bull perché è diventato ormai il suo esame uno sport estremo. So chi è un tipo brillante ma svogliato. Io i miei ragazzi li conosco bene tutti, cerco di aiutarli, ma negli ultimi tempi ho notato un calo di rendimento. La mia non è cattiveria, ma non si può promuovere chi non conosce la nomenclatura o un'equazione chimica. Come posso pretendere che diventino biologi marini? Come faranno a capire cosa avviene negli oceani? Preferisco essere odiata che mandare sul mercato del lavoro gente impreparata. Questa professoressa, insomma, intervistata da Riccardo Bruno sul Corriere della Sera, pagina 21, dice: i ragazzi si impegnano poco, si impegnano male. Io cerco di aiutarli, gli regalo anche dei libri, ma non studiano. E quindi è diventata lei il tormento di questa università, ma lancia questa, questo tema sui giornali a dire: sono i ragazzi che davvero non sono preparati. E chissà dove sta la verità. Chissà dove sta la verità anche per la vicenda che ha fatto scalpore qualche tempo fa. Ricordate l'inchino durante la processione Oppido Mamertina della statua della Madonna nella via dove era agli arresti domiciliari, dove è agli arresti domiciliari un boss dell''Ndrangheta. Ebbene, parla per la prima volta al Stampa in maniera chiara, cioè con domande e risposte, comunque alcune dichiarazioni, il parroco Don Benedetto Rustico, ripreso anche con una barba, una chioma da Babbo Natale tutta bianca, una barba tutta bianca, viene fotografato e intervistato da Gaetano Mazzucca, e le dichiarazioni sono molto molto scioccanti. A pagina 15 della Stampa, l'inchino al boss: sarò al fianco dei denunciati. Così il parroco Don Benedetto Rustico, che dice: è una speculazione vergognosa, non è successo nulla. Ecco il suo racconto. In questo periodo piace molto il sacerdote che fa le manifestazioni, partecipa ai cortei, lancia slogan che hanno un certo effetto. Io scelgo la strada del silenzio e della mediazione. Nessuno ha detto, per esempio, che sono presidente di una cooperativa che si occupa di beni confiscati. Il segno: per me l''Ndrangheta si combatte agendo sull'humus nel quale si sviluppa, gli arresti non servono. La situazione non è cambiata, bisogna dare lavoro e giustizia, ma quella giusta. Le sembra normale che due ragazzi siano stati assolti dall'accusa di omicidio dopo 13 anni? E dice: in pratica non è successo nulla a Oppido Mamertina. La processione ha sempre fatto lo stesso percorso, da decenni fa quel mezzo giro in prossimità di Corso Piemonte. Si faceva già molto prima che la famiglia Mazzagatti si trasferisse in quella strada. E poi arriva l'affondo all'attività della direzione distrettuale antimafia. Si criminalizza e basta, dice il parroco di Oppido. Tra i portatori della statua della Madonna sotto inchiesta c'è chi ha avuto un tumore e ha fatto un voto, e c'è chi ha avuto problemi con la giustizia, ma la redenzione è per tutti. E dice ancora il cronista della Stampa: stamattina sono andato al bar, il caffè me l'ha offerto una persona il cui figlio è in carcere. Secondo lei non avrei dovuto accettare? O forse per questo sono un affiliato? Qui si criminalizza e basta. E poi il maresciallo Andrea Marino, dei Carabinieri, colui che ha lanciato questa questa notizia dell'inchino, ha parlato soltanto con qualcuno e poi bisognerebbe capire un'altra cosa, se il suo era solo un consiglio o un ordine. Ci conosciamo da tempo, col maresciallo ci siamo sempre confrontati nel reciproco rispetto. Per esempio, so che lui non è d'accordo quando facciamo le preghiere per i detenuti, ma lui è un carabiniere e deve fare il carabiniere. Il prete sono io. Avete sentito come parla il parroco? Nessun riferimento però al fatto che abbia detto, come ormai accertato, ai parrocchiani schiaffeggiate quel giornalista che era entrato in chiesa, il giornalista del Fatto Quotidiano. E va bene, e questa è la verità del parroco Don Benedetto Rustico, che dopo 25 anni a Milano è tornato come parroco a Oppido Mamertina, suo paese natale. Voglio, prima della pubblicità, raccontarvi anche cosa ha fatto un padre che andrebbe internato per una figlia. Allora, sapete che tutte le bambine vogliono diventare delle principesse, no? È un classico. So, cosa vuoi diventare da grande? Anche mia figlia mi diceva, una principessa. Oh, che bello. Guarda i film di Walt Disney e viva. E invece questo padre ha preso, che ripeto andrebbe internato, ha preso sul serio il desiderio di sua figlia. Un regno in dono per sua figlia, la sfida all'ONU di Papa Geremia. È questo padre americano. La figlia Emily gli ha detto: voglio diventare una principessa, ma poi è diventato evidentemente un capriccio, perché voglio diventare una principessa a tutti i costi, voglio diventare una principessa vera. E allora padre Geremia, cioè il padre Geremia, non è un prete, è suo padre, ha cercato terra nullius, cioè la terra di nessuno, su Google, e ha trovato una piccola striscia nel deserto tra l'Egitto e il Sudan che nessuno reclamava da 100 anni. È andato lì, ha ottenuto il permesso dall'Egitto di andare lì, ha fatto una bella bandiera con una bella corona, si è impiantato lì in una terra di nessuno, nel pieno del deserto arido tra Sudan e Egitto, dicendo ecco, questo è il tuo regno. E ha regalato questo regno alla figlia Emily. E non contento, ha fatto e sta facendo una battaglia all'ONU per cercare di essere riconosciuto a capo di questa terra che nessuno vuole, per mettere la figlia Emily principessa di questo regno. Un regno in dono per sua figlia, la sfida all'ONU di papà Geremia. Emily le aveva chiesto di diventare principessa e lui l'ha accontentata. Ha fatto la bandiera, ha portato la bandiera della sua bambina su una terra africana non rivendicata e ora vuole il riconoscimento del mondo e dell'ONU. Pagina 15 di Repubblica. Ripeto, interniamolo e risolviamo tutto. Povera Emily, non tanto perché ha perso il regno, ma insomma, con un padre così, questo è. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan, oh, sempre l'ascolto, Grande Gabibbo, un forte abbraccio ovviamente anche a te, il Gabibbo che ci segue tutti i giorni, così dice lui e noi ci crediamo. E allora alle 7:33 minuti, che dire, è la settimana decisiva. No, vabbè, ironizzo un pochettino. Certo, le riforme sono sullo sfondo ed sono la riforma del Senato soprattutto è la settimana in cui si incardina, iniziano le votazioni al Senato, ma guardate che per un primo sì forse si riuscirà entro l'estate. E poi ci vorrà il passaggio alla Camera, poi un secondo passaggio tecnico al Senato e alla Camera. Due passaggi, due alla Camera e due al Senato. E tra il primo e l'ultimo passaggio, tra i due passaggi alla stessa Camera, devono passare almeno 3 mesi. E quindi, voglio dire, ma questi sono i tempi, non è che si può fare velocemente, ma il modo più veloce è questo. Intanto, però, è interessante ciò che Mario Sensini scrive sul Corriere della Sera, prima delle riforme, questa notizia sulla legge di stabilità che Renzi accelera e vorrebbe preparata e pronta già per Ferragosto. Un mese per varare il piano 2015. Il governo, scrive Sensini, è arrivato già all'appuntamento fatidico con la legge di stabilità in anticipo rispetto agli altri anni. Il premier la vuole pronta per Ferragosto. Il Presidente del Consiglio conferma il consolidamento del bonus di 80 euro in busta paga con l'ampliamento della platea dei beneficiari. Punta un forte allentamento del patto di stabilità che permette ai comuni di investire le risorse che hanno in cassa e al varo di qualche altro intervento fiscale, per esempio sull'IRAP. un programma molto ambizioso, costerebbe almeno 3 o 4 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a quelli previsti, da realizzare in un contesto in cui, al di là delle rassicurazioni quotidiane del Premier, nel complesso le cose non vanno oggettivamente bene, come ammettono i tecnici di Palazzo Chigi e di Via 20 Settembre, cioè il Ministero dell'Economia. Dunque, penserebbe a queste cose l'ampliamento della platea dei beneficiari degli 80 euro in busta paga, che ieri Renzi ha detto sono confermati anche per l'anno prossimo, lo sforamento del patto di stabilità o comunque un allentamento, e l'IRAP. 3-4 miliardi dove si trovano? Beh, per prima cosa, scrive Sensini, bisognerà evitare il rischio di una manovra bis. Il prodotto interno lordo quest'anno non crescerà dello 0,8%, il deficit sarà più alto del 2,6% previsto. Per stare sotto al 3% del PIL c'è margine, e se lo spread resta basso si risparmieranno un poco sulla spesa per gli interessi sul debito, ma rischia di allontanarsi ancora il pareggio strutturale quando sarà già molto difficile far accettare all'Unione Europea il rinvio di un anno al 2016. Comunque la legge di stabilità entro Ferragosto è con questi principi. Intanto inizia appunto a muoversi la barca della riforma del Senato. Il ministro Maria Elena Boschi oggi fa un'intervista al Messaggero, intervistata da Diodato Pirone, dice, l'intervista la trovate a pagina 3, via l'immunità solo se c'è l'intesa di tutti, racconta il ministro Boschi. Quella più importante modifica potrebbe riguardare i poteri del Senato sull'esame della legge di bilancio, mentre l'ineleggibilità è rimasto l'unico tema di dissenso sul tappeto. Francamente mi auguro che il PD possa votare unitariamente. Mi sembra difficile poter invocare casi di coscienza sull'eleggibilità come fosse un tema etico. Di fronte alla domanda secca, ma chi dovesse votare no del PD sarà espulso dal partito, risponde il ministro Boschi: questa materia è di competenza del gruppo parlamentare, non del governo. Le ragioni del dissenso si sono molto ridotte, tant'è vero che anche i dissidenti non sono favorevoli al bicameralismo perfetto e al potere di fiducia del Senato. Dunque, desidero ripeterlo, esistono le condizioni per un voto unitario. E dice poi: parlerò e parleremo anche coi grillini, a patto che non sia una perdita di tempo e si entri nel merito delle questioni. Loro debbono decidersi, o fanno i sit-in o dialogano in concreto. È riferita la notizia al fatto che domani, martedì, Grillo ha annunciato un sit-in di protesta davanti al Senato, proprio nel momento e nella settimana in cui inizia l'iter delle votazioni all'interno del Senato. Comunque, in un retroscena di Repubblica a pagina 6 e a firma Tommaso Ciriaco, il Premier Renzi avvisa i frondisti: chi non vota si mette fuori. Ecco, questo è il prossimo fronte. Chi terrà il punto all'interno del PD e non voterà questa riforma del Senato sarà espulso dal partito? Non risponde il ministro Boschi, ma secondo questo retroscena di Repubblica, Renzi e i suoi dice: quattro senatori non possono fermare il PD e le riforme, chi vota contro si mette fuori da solo. Dunque nessuna espulsione, ma è chi è contro che in qualche modo per il Presidente del Consiglio si mette fuori. Nessuna minaccia di espulsione. E dice anche il PD Tonini: ma chi accusa Renzi di portare avanti un progetto autoritario e diversivo alla fine si troverà a fare i conti con le sue stesse parole. Come vedete, l'espulsione non viene mai citata così, ma il concetto è: siete voi che vi tirate fuori dallo stesso partito. C'è da dire che anche in Forza Italia c'è una grande tensione, e Fitto, che è uno di coloro più avversi alla riforma del Senato, ha scritto una lettera al presidente del partito Berlusconi, una lettera aperta, come scrive il Corriere della Sera a pagina 8. Sbagliamo, siamo come ipnotizzati dal Premier, racconta Paola Di Carro. La confusione è grande sotto il cielo di Arcore, molto di più di quanto si potesse immaginare alla vigilia del voto sulla riforma del Senato. Scrive Fitto appunto una lettera a Berlusconi e parla della non elettività, l'innalzamento del numero di firme per chiedere il referendum, il rischio di conflitti tra Camera e Senato, tutte perplessità che a sollevarle si viene accusati di non essere fedeli a Berlusconi o di tradire il patto del Nazareno. ma dice Fitto, stiamo sbagliando, sembriamo ipnotizzati da Renzi, non è accettabile che nel silenzio del nostro partito Renzi si permetta di ridicolizzare alcuni nostri senatori solo perché la pensano diversamente. Siamo sicuri che questo atteggiamento così passivo sia utile a te e alla nostra parte politica? Così Fitto chiede a Silvio Berlusconi, anche se sul giornale c'è già in qualche modo la risposta. Pagina 4 del giornale, Forza Italia blocca Fitto, ora basta, sulle riforme non si può perdere tempo. L'ex ministro scrive al Cavaliere, ma la replica del capogruppo di Forza Italia al Senato Romani è questa, non ha senso sfilarci in questa fase. C'è da dire che per la verità Berlusconi pensa soprattutto al voto, al processo Rubi, il processo in appello che arriva venerdì, i giudici si riuniscono in Camera di Consiglio, quindi il giudizio poi da quel momento potrebbe arrivare da un momento all'altro. Oggi il giornale mette in prima pagina che cosa? Le dichiarazioni che Silvio Berlusconi ha reso al giudice. Siccome, scrive il giornale, da tempo ci sono varie ricostruzioni anche fantasiose, eccolo qui, pubblichiamo dalla prima pagina, poi pagina 2-3, tutte le dichiarazioni spontanee rese ai magistrati da Silvio Berlusconi, e parla delle cene, racconta insomma la versione che ha detto anche in varie interviste, cioè cene eleganti, senza niente di compromettente, il rapporto con Rubi, come l'ha conosciuta, la presunta parentela con Mubarak, insomma tutte robe che già poi sono state rese note in interviste, ma c'è questo documento verbalizzato, le dichiarazioni di Berlusconi davanti al giudice. Mentre invece attende, e questa è una settimana davvero potrebbe essere decisiva per la richiesta d'arresto dell'onorevole Galan, che martedì è calendarizzata la richiesta dell'Aula dopo che la giunta per l'autorizzazione a procedere ha detto lo si arresti per la richiesta dei giudici di Venezia, l'inchiesta è quella del MOSE. Galan, scrive il giornale, il Corriere della Sera, pagina 18, aspetta in ospedale. Che è successo? Si è rotto tibia e perone una decina di giorni fa. Galan stava sistemando rose del suo giardino, è scivolato, la corsa in ospedale, le lastre, il gesso, e il gesso troppo stretto gli ha provocato una tromboflebite acuta. Nuova corsa in ospedale, sabato sera la ricaduta. Il punto è che Galan soffre di diabete cronico ed è questo che insieme alla tromboflebite crea scompensi circolatori, fa temere per un'embolia. Dunque Galan si trova in questo momento ricoverato in ospedale, aspetterà lì il voto della Camera sulla richiesta d'arresto, e a Forza Italia chiedono, a cominciare dal capogruppo Brunetta, vogliamo che sia segreto. I legali preparano già la richiesta dei domiciliari, forse per problemi di salute, per l'appunto. A proposito, Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Buongiorno. Ti giuro che l'associazione non è di quella. Veramente, tra i problemi di salute il carcere, non so cosa augurarmi. No. Comunque, buongiorno, anzi, guten Tag, guten caro Tag. Alessandro. Guten Morgen! Guten Morgen, perché oggi è il giorno che dobbiamo un po' tutti parlare così. Sì. Hai visto questa interessante classifica? E come no, ho sentito anche il tuo servizio e aspettavo giusto te per commentarla. No, infatti, perché appunto anche sui tuoi due urini, caro mio, mi sa che la crisi ha avuto, questi anni di crisi hanno avuto i loro pesanti effetti. Noi abbiamo provato a calcolare insomma le province che hanno perduto più terreno. E devo dire che sono soprattutto quelle piccole, come vedi dalla classifica poi finale, Viterbo, Latina, Novara, Cosenza, cioè tutte province di una popolazione non enorme, voglio dire 300-500 mila abitanti. Ho visto quelle che invece vanno meglio, Vicenza, Bolzano, Modena, Mantova, Pisa. C'è da dire, c'è una sorta di divisione, come spesso accade, nord-sud in questa classifica, oppure un po' no? Meno del solito, se posso dire, perché anche alcune province del nord alla fine si sono piazzate benino, cioè malino verrebbe da dire, perché ad esempio tu trovi Novara, ma poi trovi anche altre province piemontesi, poi nella classifica generale abbastanza alte come Cuneo, e persino Udine riesce a conquistare, si fa per dire, o a finire appunto in una posizione elevata. E ricordiamo che se si è in classifica vuol dire che lì la crisi si è sentita di più, quindi è una classifica è da leggere al contrario. Esatto. Non è come i campionati del mondo, qui vuol dire che alcuni degli indicatori sono andati particolarmente male, oppure che in molti degli indicatori dei 10 che abbiamo scelto le posizioni non sono tali da garantire una buona posizione, che sarebbe in fondo. Ma comunque pagina 2-3 ci sono tutti i dettagli per capire anche se siete in quale provincia, vedere tutti gli indicatori, eh? E poi naturalmente sul nostro sito www.ilsole24.com, da cui potete anche raggiungere naturalmente Radio 24, potete trovare anche tutto l'integrale dei 10 indicatori, cioè tutte le province classificate per i vari indicatori. E poi hai visto che insomma la giustizia costa cara, tu che mi vuoi sempre mandare in galera, sì. Ecco, io sono preoccupato perché il contributo unificato ha avuto degli aumenti considerevoli in una decina d'anni, adesso se volessi portare la questione fino in Cassazione, beh c'è un rincaro del 700, che può arrivare al 700%, insomma. Non mi sembra poco. Meglio dopo il primo grado rinunciare e farti il tuo gabbio. A questo punto, guarda, potrei anche, se no, espatriare, vedere un pochino. Mi sembra che ci siano altri esempi oggi, esatto, sui giornali, esatto. No? Invece i saldi, guarda che si può anche trovare qualche affare migliore in internet, ma spieghiamo come e diamo tutte le avvertenze sulle nostre pagine di Risparmio e Famiglia questa mattina. E poi naturalmente l'IVA sugli omaggi, tu volessi farmi un regalo, volessi conoscere mai il corretto trattamento IVA, beh, naturalmente le pagine di norme e tributi di oggi. Ottimo. Ma mi pare che il tempo di Zeit a mia disposizione sia praticamente esatto. Agli sgoccioli, allora io a questo punto dovrei dire Verkehr, sì. Però poiché non tutti parliamo la lingua di Goethe e io per primo non la parlo, allora starò su un più banale traffico. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola chiama Alessandro Milan, il buono, il brutto e il cattivo dell'informazione. E vabbè, addirittura. Allora, continuiamo la lettura dei giornali. C'è un interessante sondaggio. Bello questo, me lo fai andare avanti fino alla fine. Vabbè, è un interessante sondaggio, grande Peter Bescapè, ovviamente, tra milanisti ci si intende. Un sondaggio di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera riguarda l'immigrazione, a pagina 9. Interessanti alcuni dati, perché secondo il 70% degli italiani gli immigrati in Italia sono un costo per le casse dello Stato. Anche se Pagnoncelli fa capire, certo, i costi dell'operazione Mare Nostrum incidono nella percezione degli italiani. Si spende 9 milioni al mese, 100 milioni di euro l'anno, ma se sull'altro piatto della bilancia mettiamo l'IRPEF versata dai contribuenti stranieri, che complessivamente versano al nostro Stato più di 6 miliardi e 500 milioni, le cose cambiano. Come un'altra percezione è questa: gli stranieri in Italia sono circa il 7% della popolazione, eppure la percezione per molti italiani, cioè per il 70% degli italiani intervistati in questo sondaggio, addirittura pensano che gli immigrati irregolari siano almeno la metà della popolazione residente. In realtà, appunto detto, gli stranieri sono il 7% della popolazione totale che c'è in Italia. Comunque questo sondaggio e questi dati li potete trovare sul Corriere della Sera, pagina 9. Oggi è una giornata importante, oserei dire decisiva, se non fosse leggerissimamente abusato questo aggettivo, per la vicenda Alitalia. Perché oggi il sì delle banche, poi l'abbraccio con Etihad, questo è il titolo di Repubblica, pagina 12, l'amministratore delegato Del Torchio dice fiducia nella CGIL, è l'unico sindacato che al momento mantiene un po' le barricate sul possibile piano di alleanza con Etihad. C'è un'interessante analisi di Ettore Livini a pagina 12 e 13 di Repubblica: vincono gli emiri e il governo, ma i biglietti saranno più cari, e questo per i contribuenti, per i cittadini, sono i convitati di pietra del salvataggio e more solito pagheranno parte del conto finale. Dal 2008 oggi lo Stato ha sacrificato qualcosa come 4 miliardi alla causa Alitalia, scrive Repubblica. 1 miliardo se n'è andato dalle casse dell'INPS per pagare cassa e mobilità per un totale di 7 anni. Un altro miliardo dal fondo del trasporto aereo finanziato con una tassa di 3 euro a biglietto. Il contatore continuerà a scorrere per i nuovi esuberi e la probabile proroga degli ammortizzatori per quelli del 2008. ENAV ha garantito lo scorso anno 60 milioni di sconti alle compagnie. L'ENAC è pronto a pagare i corsi ai piloti per non perdere le licenze di volo. Le Poste ha messo 75 milioni in Alitalia, tanto alla fine paga Pantalone. I consumatori invece ci saranno più rotte, molto probabilmente più care, scrive Repubblica. L'operazione Etihad garantirà un aumento della connettività a lungo raggio dall'Italia, ma rischia di far salire il costo dei biglietti. Gli emiri hanno chiesto al governo un provvedimento per riequilibrare a favore di Linate il traffico aereo a Milano e scoraggiare le low cost, rendendo più complesso aprire nuove rotte. Se Unione Europea permettendo, il governo eseguirà, la concorrenza nel nostro paese si ridurrà di un altro po' e le tariffe cresceranno. Il provvedimento Destinazione Italia, oltretutto, apre la porta a un aumento delle tasse aeroportuali per finanziare gli ammortizzatori sociali di settore. Ma comunque ci sono tante altre, le banche, Malpensa, la posizione di Etihad e tra l'altro arriva domani, pare, l'amministratore delegato, anzi Hogan, sarà domani a Roma e mercoledì si darà in pasto ai media, così racconta Repubblica. È il numero uno di Etihad, forse ci siamo, forse no, staremo a vedere. Questa davvero potrebbe essere la settimana decisiva per qualcosa, almeno sulla vicenda Alitalia. Mentre purtroppo in Medio Oriente continuano senza sosta gli attacchi, i razzi lanciati dalla striscia di Gaza, gli obiettivi che vengono colpiti invece dall'esercito israeliano, i morti sono soprattutto e totalmente a Gaza, questo perché c'è una superiorità militare indiscutibile da parte dell'esercito israeliano, mentre i razzi lanciati dalla striscia di Gaza anche su Tel Aviv vengono tutti intercettati da questo sistema difensivo. Invece gli attacchi dell'esercito israeliano sono attacchi che vanno tutti a colpire. E, tra l'altro, tutti i giornali, tutti gli inviati raccontano il dramma della popolazione civile a Gaza che, non volendo fare spesso anche come scudi umani, perché spesso raccontano, vengono anche utilizzati così, vengono nascoste le armi magari nelle abitazioni dei civili, allora fuggono. Cioè, ma fuggono dove? La striscia di Gaza ovviamente è una striscia chiusa da confini a sud con l'Egitto e a nord e di lato appunto con Israele. Comunque Davide Frattini sul Corriere della Sera racconta i volantini, poi la fuga sui carretti, in 10.000 lasciano le loro case, i palestinesi sgombrano il nord della striscia, ci sono anche i primi scontri a terra, ci sono tutte le foto di palestinesi, spesso poi le loro case vengono distrutte appunto perché è bersaglio e quindi abbandonano la striscia di Gaza. Vabbè, è solo il momento per raccontare, trovate molto anche su Gianluca Grignani, che nega di essere stato ubriaco, ma secondo alcuni elementi anche la stampa dice sotto effetto di alcol e anche forse di stupefacenti aggredito ai carabinieri e quindi è stato arrestato a Riccione. Oggi ci sarà il processo per direttissima, ma soprattutto la notizia del giorno è la Germania, vedrete anche la Merkel esultare in tutte le salse. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è Mondial Fest, la Germania pure nel calcio ci fa un mazzo così a tutto il mondo. Ebbene sì, questa sarà la lettura dei prossimi giorni, la Germania che anche nel calcio trionfa come nell'economia. Ah, vabbè, siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi stravince il Messaggero, che dedica mezza pagina a questa polemica scoppiata sui social, dove Belen è dovuta correre in difesa del compagno Stefano De Martino perché un utente ha scritto su Facebook: ma sembri un morto di fame, perché lui si ritraeva in una foto che mangiava qualche cosa di McDonald's, e quindi Belen è intervenuta, lancia in resta difendendo il proprio compagno: non preoccuparti che a dargli da mangiare ci penso io, cretino, ha risposto Belen a questo che si è permesso di dare il morto di fame a Stefano De Martino. Il Messaggero, mezza pagina su questo, mezza pagina, dai. 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, dite la verità, molti di voi state facendo gli ultimi giorni di lavoro e poi pensate alle agognate vacanze, a magari andrete al mare. Ebbene, sappiate che ogni anno puntualmente si verifica questo dibattito quando si parla di mare, di stabilimenti balneari, di concessioni marittime. I litorali, sapete, sono di proprietà dello Stato, sono il demanio marittimo, vengono dati in concessione ai titolari degli stabilimenti, i quali pagano un affitto per questo allo Stato, e puntualmente spunta questa polemica. Venerdì l'Espresso ci si è focalizzato, ha raccontato in un servizio con due dati, teneteli bene a mente, che sono la base della nostra trasmissione per capire di cosa stiamo parlando. Quant'è il giro di affari dell'industria balnearia? Circa 2 miliardi di euro l'anno, 2 miliardi di euro. Quanto lo Stato invece incassa in affitto dai titolari degli stabilimenti balneari nel 2013? 102 milioni. Allora, sembra uno squilibrio notevole, tanto che molti si chiedono: non è il caso di far pagare affitti più cari alle imprese che gestiscono gli arenili? E c'è però un dibattito complesso che riguarda anche direttive europee. Di questo vogliamo cercare di capire qualcosa. Lo facciamo anche col vostro contributo, se volete. 800 24 00 24 è il numero per intervenire in diretta. Saluto l'assessore alla pianificazione urbanistica della regione Liguria, Gabriele Cascino. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Saluto anche Renato Papagni, che è presidente di Feder Balneari Italia. Buongiorno Papagni. Buongiorno assessore. E ben ritrovato Papagni, perché non è la prima volta che ci occupiamo del tema. Affrontiamo questi problemi. E affrontiamo i problemi. Allora, assessore Cascino, intanto la questione è questa: lei in Liguria, mi sembra anche con qualche resistenza all'interno della giunta, si è battuto per aumentare la quota delle concessioni regionali. È così? Lo ha fatto quest'anno? Ma ci ho provato l'anno scorso, poi le resistenze non sono state da parte della giunta ma del consiglio regionale, quindi le paludi non sono solo a Roma ma esistono anche, diciamo così, localmente. Dopodiché è evidente che l'imposizione sul demanio è fatto di due voci, il cosiddetto canone regionale e poi c'è la tassa regionale, che per legge dello Stato va dal 10 al 300% del canone nazionale. In Liguria fino all'anno scorso si pagava il 10%. Le faccio un esempio perché poi dobbiamo capire di cosa parliamo. 1000 metri di spiaggia, 1000 metri quadrati più 100 metri quadrati di struttura fissa e 100 quadrati di struttura movibile, le cosiddette cabine, pagano all'incirca 2000 euro di canone nazionale. 2000. Quindi in Liguria si pagava il 10% di tassa regionale, equivale a 200 euro all'anno, e quindi ho provato a fare questa operazione di parificare l'importo della tassa regionale con il canone. Ecco, perché lei ha fatto anche qualcosa di più, ha detto, visto per capire di cui, ciò di cui stiamo parlando, ha reso noti quanti sono gli affitti che pagano gli stabilimenti balneari in Liguria. Ci può fare qualche esempio, non tanto di citare, ma di qualche esempio di proporzione, cioè ci faccia capire quant'è l'introito per uno stabilimento balneare per una stagione di 3 mesi, immagino, e quanto paga invece in affitto allo Stato? Ma io poi i dati non li ho pubblicati io, nel senso perché li ha pubblicati l'ufficio della Regione Liguria, sì, ma comunicati dall'Agenzia del Demanio, perché noi non li abbiamo. Dopodiché io abbiamo fatto conoscere, perché poi sono dati pubblici, voglio dire, quello che paga uno stabilimento balneare, non certo quello che incassa, perché non compete a noi e non lo conosciamo. Ma per fare un esempio, l'ho detto, i 1000 metri di spiaggia, calcoli che una spiaggia da Lazio, ecco, che è una località nota, è 500-600-700 metri quadrati. Io le ho fatto l'esempio prima di 1000 metri quadrati, sì, quindi 2000 euro di canone nazionale e 200 euro di tassa regionale. Quindi 2200 euro, non so, ad Alassio, io li ho qua, ce li ho alcuni. Un po' meno ad Alassio. Sì, infatti ci sono anche stabilimenti che pagano 361 euro di importo annuale, magari stabilimenti piccoli, immagino. Sì, ma quelle sono anche concessioni commerciali situate sul demanio, l'edicola o le altre insomma situazioni. Però adesso magari non voglio fare una pubblicità, ma l'albergo Vittoria da Lazio spende 5.108 euro di affitto per la stagione. Quanto potrà guadagnare più o meno? Quanto può essere il fatturato in percentuale? Non ne ho idea, guardi, le darei dati che non conosco e non mi sembra, insomma, molto di più. Sono ipotesi mie personali. Molto di più, però le sembra un po' sproporzionato, insomma, che se paga 5.100 euro di affitto immagino che guadagnerà molto di più in realtà. Cioè lei vorrebbe degli affitti che lo Stato guadagnasse un po' di più da queste tasse, no, parliamoci chiaro. Le regioni che incassassero di più. Vabbè, ma le regioni, lo Stato, no, poi è un po'. No, è un po' diverso. È un po' diverso Milan, perché guarda che il canone prende parte, va a Roma e non si sa che fine fa. Vabbè, la questa tassa sì. regionale, no, mi faccio specificare questa cosa, perché la mia proposta era molto articolata, nel senso che la tassa regionale sarebbe rimasta sul territorio e la mia proposta di legge prevedeva che l'80% di questo incasso fosse devoluto e investito solo nel demanio, quindi specificato il ruolo che dovrebbe quindi avere. Migliorando anche poi gli stabilimenti, investendo negli arenili, investendo nell'abbellimento, per l'accoglienza turistica. Costa, pennelli, protezione della costa che si sta, voglio dire, consumando, miglioramento. Vabbè, diciamo, poi al di là della battaglia federalista, ma giusta, cioè le dice rimangano più alle regioni piuttosto che allo Stato centrale, poi se li ingloba tutti non arriva a niente. Quello che lei vorrebbe è che le amministrazioni, diciamo così, che lo Stato in generale, regione in particolare, guadagnasse di più da questo che è un affare, un vero business. Ma sì, ma per fare più investimenti, io dico, la nostra regione, cioè... voglio dire, la Liguria è conosciuta soprattutto per l'offerta turistica balneare. Abbiamo bisogno di ingenti investimenti, ahimè i soldi pubblici ce n'è più pochi, abbiamo bisogno di fare un ragionamento con questo tipo di tassa. Tant'è che la tassa, adesso non voglio entrare nel diritto tributario, ma la tassa è diversa dall'imposta. La tassa ha una funzione, deve essere spesa per quella determinata funzione, non per le spese generali. Quindi lo scopo è proprio quello, tant'è che lo Stato all'epoca, quando introdusse questo tributo, disse le regioni poi possono mettere un'ulteriore tassa dal 10 fino al 300% del canone demaniale, e quindi la ratio della legge era proprio questa, ritengo, l'investimento sul territorio. No, ma è chiaro. Allora, la sua posizione, assessore Cascino, come detto, è molto chiara. Assessore regionale in Liguria. Allora, presidente Papagni, presidente di Federbalneari Italia, l'accusa è questa: voi pagate molto poco di affitto a fronte di guadagni molto più alti. Ovviamente voi avete tutto l'interesse che gli affitti rimangano così e che non aumentino. No, non è proprio così, insomma, diciamoci la verità e chiariamo anche con un po' di numeri. Noi abbiamo fatto proprio uno studio calibratissimo nell'ultimo mese per rispondere anche al sottosegretario Barretta che ci ha convocato per i prossimi giorni, quindi siamo assolutamente su un'altra linea. Confermiamo i numeri dei 2 miliardi di volume d'affari che c'è stato nel 2013, purtroppo il 2014 è sicuramente col segno meno 15, meno 20%. Però una cosa importantissima, anche lei ha detto come l'assessore, l'affitto degli arenili, sì. Ecco, è una concessione, sì, certo. Quindi quello che noi paghiamo è un piccolo pezzo di un sistema economico che invece versiamo allo Stato. Noi nel momento in cui abbiamo una concessione siamo obbligati sulle nostre strutture, e sul mare sono anche impegnative, tutto il costo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il salvamento, noi applichiamo il salvamento a chiunque sta nei 5 metri della battigia, quindi è un servizio generale. La pulizia della battigia, l'IMU, l'IVA che scontiamo al 22% contro il sistema europeo che sconta il 4%. Vabbè, diciamo le tasse quindi, pagate, ci mancherebbe. E quindi abbiamo fatto uno studio, poi paghiamo anche le tasse sugli utili, insomma, non ci dimentichiamo. Vabbè, ma questo è come tutte le imprese, presidente Papagni. Giustamente, non vogliamo nemmeno. Però abbiamo diviso i 30.000 concessionari italiani in tre fasce, il piccolo, il medio e il grande, e abbiamo fatto un po' di valutazioni. Non voglio raccontarvi i pezzetti che hanno costruito il numero, però 2 miliardi di volume d'affare noi restituiamo allo Stato con questi valori, con questa azione, 6 milioni di euro, non 100.000 euro. Quindi dobbiamo mettere in conto tutto, anche se poi io sono sostanzialmente d'accordo con alcune dichiarazioni fatte dall'assessore Cascino. Lasciamo alle regioni una quota maggiore perché le regioni ne possano fare un investimento, un utilizzo. Noi ne abbiamo fatto un accordo nel Lazio, lo stiamo adesso facendo anche in Campania. Per esempio, lasciamo una tassa di scopo. quel 15% che si paga nel Lazio l'abbiamo fatto diventare il 20% a favore della regione, e abbiamo fatto un protocollo d'intesa per cui la ricostruzione delle spiagge a questo punto al 20% viene mantenuta e fatta con i fondi che mettono le concessionarie. Sì, però la questione, Papagni, è questa, cioè le cifre che io ho dato io, cioè le pare normale, le pare proporzionato che uno stabilimento che magari paga, guadagna e paga 2-3 mila euro, al di là del fatto che poi dopo ci sono tutti gli oneri che lei ci ha detto, 2-3 mila euro magari per una stagione, 2-3 mila euro in un giorno li recupera. Il contenuto è basso, tanto che abbiamo presentato una proposta di legge, era del 2012, del luglio 2012, con un'articolazione condivisa molto trasversale anche dal punto di vista politico, che riordinava questo sistema. Oggi purtroppo qualcuno paga troppo poco e qualcuno paga molto alto. Sì. Ci sono strutture identiche, l'assessore parlava di 100 metri quadrati. Allora questi 100 metri quadrati, se sono in legno, in struttura leggera, costano 2.300 euro l'anno. Se fossero in una struttura fissa, quindi una muratura, invece pagano 45.000 euro l'anno, quindi c'è una sperequazione assoluta. Magari le due strutture vicine fanno tutte e due la ristorazione e il bar, facendo poi degli incassi che sono molto simili. Allora, ma è chiaro, dopodiché è chiaro che... Una proposta di legge, le chiudo solo questo ragionamento, perché ci sia un'uniformità di pagamento. Sì. Tutti paghiamo la stessa cifra al metro quadrato. 6 euro al metro quadrato significava raddoppiare gli introiti per lo Stato, da 120 milioni si passava a 200. Vabbè, ma questa la proponete voi, voglio dire, vi volete, sì, perché ci volete auto far pagare, autotassare. Cascino, questa l'ha sentita, si vogliono autotassare, no, auto aumentare di più, mi sembra. Ma insomma, io ci ho provato con i loro rappresentanti, tra l'altro al solito il presidente nazionale, a fare un ragionamento. Mi sembra che questa intenzione sia mancata. Dopodiché speriamo che in futuro, insomma, si che possa in futuro fare ci un sia. Ragionamento. No, ma perché dopo la pubblicità io voglio ripartire anche con gli ascoltatori. Ricordo il numero di telefono per intervenire, 800 24 00 24, perché poi molti dicono, consumatori, ascoltatori che vanno in vacanza, dicono: ma come, non so, l'Arenile dove sono io spendono magari 2.000 euro d'affitto, o d'affitto diciamo di concessione, quindi il pagamento allo Stato in un'intera stagione, ma io solo per una giornata tra ombrellone, lettino e poi insomma consumo qualcosa, 30-40 euro mi partono come fosse niente. E allora dove sta l'inghippo? Chi ci mangia molto su, chi ci guadagna molto? 24 mattino. Siamo qui allora alle 8.35 minuti, molti sono coloro che ci scrivono via sms oppure ci chiamano all'800 24 00 24. Parliamo degli stabilimenti balneari, di quanto pagano in concessione allo Stato, pare molto poco rispetto a quanto guadagnano, questo almeno l'assessore Gabriele Cascino, assessore regionale in Liguria, ha voluto evidenziare. E siamo anche con Renato Papagni, presidente di Federbalneare Italia. Come detto, tanti ascoltatori, sentiamo Stefano da Genova, ci chiama. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Io chiamo nel ruolo di presidente regionale della Dicosum. Dal 2007 ho iniziato una grande battaglia, perché cosa? Perché oltre al problema dei canoni concessori, che veramente irrisori, paga più un bar per un dehor che loro. Il problema è che queste concessioni si riverberebbero in continuazione, senza una logica. Il problema è anche perché rivedere le concessioni, perché ci sono i punti d'Italia, compresa Genova, che è lunga 35 km, dove non ha neanche il 10% di spiagge libere. Quindi c'è il problema di un diritto all'accesso alla libertà e una fruizione pubblica. Io ho cominciato questa battaglia nel 2007 e la Regione Liguria poi ha espresso una legge che pone la percentuale del 40% tra spiagge libere e attrezzate. Questa battaglia va portata avanti. Cioè, quindi lei vorrebbe anche più spiagge libere per garantire una libertà di fruizione anche per tutti quelli che non possono permettere. Già nel 1972 il Consiglio di Stato fece fare una ricerca, la Marina Mercantile chiese al Consiglio di Stato, o viceversa, adesso non mi ricordo bene, e uscì fuori che noi avevamo questa anomalia. Si era, tra virgolette, molto privatizzate le spiagge italiane, a detrimento delle spiagge pubbliche. Poi le concessioni di fatto erano di 6 anni, ma si riverberano automaticamente. Sì, ecco, la concessione automatica dopo 6 anni viene. Quindi c'è il la domanda alla Bolkestein, che loro la vivono come se domani arrivassero gli unni, non è così, si organizzino. C'è bisogno di far vedere, di rimettere in discussione le concessioni, sì, per riarmonizzare i litorali e alternare spiagge libere a spiagge, a spiagge di appagamento. Questa è la battaglia. O meglio, private, sono tutte pubbliche, però diciamo quelle dove ci sono stabilimenti privati in concessione e quelle invece libere di libero, esatto, accesso. Bisogna alternare, bisogna dare il diritto. No, ma è stato chiarissimo, Stefano. Grazie per questa sua telefonata, come detto, presidente della Diconsum regionale. Fabiano dalla provincia di Milano. Fabiano, buongiorno. Buongiorno Alessandro, buongiorno ai tuoi ospiti. Un tema da introdurre secondo me in questa discussione, vero il dato sul valore della concessione, altrettanto vero il dato sul fatturato, punto di domanda sulla percentuale di evasione fiscale invece. Parto da un'esperienza ultima, un weekend sulla litorale romagnolo, sì, due giorni, 60 euro, chiedo la ricevuta, mi viene consegnato un foglietto senza numero e senza data. Vabbè, questo però purtroppo, Fabiano, cioè lei dice in questo settore più di altri settori, purtroppo questo succede anche nei ristoranti dove tirano lo scontrino. Questa è una sensazione soggettiva, poi per l'amor di Dio saranno i dati a parlare, io non conosco le forme giuridiche, non conosco, però la sensazione è che il settore da questo punto di vista sia abbastanza agile. Sia più agile, va bene. Fabiano, allora lo chiedo a Renato Papagni, che chiaramente dirà che assolutamente non è così. Io ricordo anche qualcuno mi segnalò un servizio di report di recente proprio in Lazio, Papagni, no? Che si vedevano anche immagini. Sicuramente come in molte sacche del commercio, come in molte aree, insomma, è inutile che ce lo neghiamo, ci può essere la cosiddetta evasione. Oggi noi siamo sottoposti però a un sistema molto più controllato che è lo scontrino fiscale, quindi quando si arriva e si prende un lettino, un ombrellone, un servizio, nel momento immediatamente successivo al pagamento c'è lo scontrino fiscale. E se no chiedetelo, cari cittadini, mi dia lo scontrino. Insomma, noi come rappresentanza nazionale, come rappresentanza degli imprenditori balneari, diciamo che ci sia una regola, che ci sia una regola corretta per tutti, facciamo tutti gli scontrini, ci mancherebbe altro. C'è un piccolo problema che però io voglio sollevare: quando qualcuno paga 10 euro un lettino, tutti debbono sapere che 22%, quindi 2,20 euro, vanno allo Stato. Sì. Io faccio solo questa valutazione. Se fossimo in un regime più equo, non voglio il 4% che c'è in Grecia o in Spagna, ma il 10% che c'è in tutto il servizio turistico nazionale, probabilmente qualche evasione in meno ce l'avremmo. Cioè l'evasione di necessità. Un regime corretto fiscale. Anche lei invece siamo vessati col 22%. Cioè, come ricorda, come Stefano Fassina, ex viceministro, l'evasione di necessità, questa proposta. Ogni tanto, specialmente in questo momento che è di grande crisi e di grande difficoltà. Ma la sensazione non è che ci stanno mettendo. No, chiaro, ma non è questa la sensazione, Papagni, che per molti italiani, voi lavorate ovviamente in una stagione che dura quanto? Due mesi. 70 giorni sono E quindi in due mesi volete guadagnare per vivere tutto l'anno? No, per vivere, in due mesi ormai non si vive più tutto l'anno, bisogna inventarsi qualche cosa. E non a caso molti stabilimenti, molti complessi balneari hanno riorganizzato anche un sistema di servizi invernali, l'elioterapia, qualcuno c'ha il centro benessere, qualcuno c'ha la ristorazione, qualcuno fa qualche altra cosa anche di importante, perché sennò ormai non si vive più con la sola stagione balneare. Vabbè, il canone, pur se basso, lo paghiamo per 12 mesi, insomma. No, ma questo ci mancherebbe, però questo è chiaro. La spiaggia deve essere libera, ci scrive via SMS un ascoltatore. Non so, giro all'assessore Cascino anche la considerazione che ci faceva l'ascoltatore dell'Adiconsum, quindi uno dei rappresentanti dei consumatori. Ci vorrebbe più spiaggia libera, Cascino, secondo lei? Sì, ha ragione, tant'è che la legge regionale, l'ascoltatore presidente dell'Adiconsum lo diceva, lo prevede, piano piano lo stiamo attuando. Lui in particolare parlava di Genova e credo che il comune stia lavorando al nuovo piano urbanistico demaniale per rispettare la percentuale di spiaggia libera che deve essere del 20%, quindi del 20%. È uno dei pochi comuni che manca l'appello, speriamo che riesca a fare un piano rispettando questo limite. Assessore, vuole spiegare agli ascoltatori invece cos'è questa direttiva Bolkestein con l'Europa che ci guarda e l'Europa che ci bacchetta? Pare che arrivino anche qui i rischi di nuove sanzioni, l'ha fatto cenno prima appunto l'ascoltatore, e cioè si prevede quella che si dice una liberalizzazione delle concessioni, ma in concreto come potrebbe impattare sul settore? Ma la famosa direttiva Bolkestein sulla concorrenza dice essenzialmente che le concessioni pubbliche devono andare a gara e non possono essere prorogate così tacitamente e in maniera automatica. Di sei anni, quindi, in sei anni, come avviene adesso, mi sembra di capire. Ma più o meno, sì, più è meno. Stata prorogata l'ultima volta nel 2013, dovevano scadere nel 2015, sono state portate alla scadenza del 2020. Però la Bolkestein, e io su questo punto sono un po' d'accordo con chi ha la gestione dei stabilimenti balneari fino ad oggi. Guardi, lei parla con uno che ha lavorato in spiaggia negli anni universitari, quindi so benissimo la fatica che fa. Quindi non è che sono contro chi esercita questa attività, ci mancherebbe, tanti bei ricordi e capisco lo sforzo e il lavoro che si fa. Però il problema è un po' questo. Applicare anche così la Bolkestein in maniera rigida credo che possa procurare un danno al demanio pubblico, perché se uno deve vincere una gara investendo magari molte centinaia di milioni tanti soldi per vincere, ovviamente poi passerà probabilmente il resto della concessione a pagare lo sforzo finanziario che ha fatto pagandosi la sua rata e quindi non investendo sul demanio, perché noi abbiamo bisogno essenzialmente. Chiaro. Insomma, lei dice il rischio della Bolkestein è che impedisca a un imprenditore a dire: ma perché devo investire cose che magari mi devo ripagare in 20 anni e se poi dopo perdo tutto tra tot anni? Allora, perfetto. E allora dobbiamo studiare un meccanismo che sta a metà tra la completa liberalizzazione e la proroga tacita. Io ho proposto, come Regione Liguria abbiamo proposto, siamo i capofila di tutte le regioni riguardo al demanio, la proroga della concessione in cambio di investimenti. Quello che avviene oggi, per esempio, quando un qualsiasi cittadino vuole, voglio dire, fare un investimento sul demanio, si calcola la durata della concessione in base all'investimento che vuol fare sul demanio, sia la costruzione di un porto, sia il miglioramento dello stabilimento balneare. Quindi, voglio dire, questa potrebbe essere una giusta mediazione. Sì, certo. Si vincola alle migliorie che uno porta la concessione rinnovata. Fatemi sentire Vincenzo da Ancona, poi voglio chiedere anche a Papagni che ne pensa di questa direttiva Bolkestein, che i responsabili degli stabilimenti balneari vedono un po' come il fumo negli occhi. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. L'assessore mi ha anticipato su quello che volevo rappresentare, cioè che la giusta misura per valutare l'affitto è quella di mettere la gara. Perché? Perché la sensazione di tutti è quella che il canone sia basso, ma l'altra sensazione è che ormai non si parla più di concessione ma di proprietà. Io penso, e alcune esperienze di alcuni comuni che hanno messo a bando concessione e affitto, che una tranquilla gara, una seria gara per l'assegnazione della concessione deve essere legata anche agli investimenti. La ringrazio, Vincenzo. Vorrei andare da Fiorenza, da Roma. Buongiorno, Fiorenza. Buongiorno, salve, buongiorno. Senta, io avevo già sentito un intervento similare a quello che volevo fare io, quindi il mio rapporto è in effetti quello della persona che ha detto che c'è un'evasione fiscale notevole in questo settore. Ma lei lo chiede lo scontrino, cioè come ci ha detto il presidente Papagni, chiedete lo scontrino, questa è l'unica cosa di fronte a un tentativo di evasione. Sì, siamo d'accordo, però questo non giustifica. No, non giustifica nulla. Cioè, no, non lo giustifica, è l'unico modo in quel momento per cercare di reagire di fronte a... Ma magari da parte nostra può fuggire qualche volta e questo sarebbe giustificato, però il fatto invece di non farlo in automatico... Quello sarebbe l'ideale, cioè, non giusto proprio, no, l'ideale. Quindi lei conferma, insomma, visto... Assolutamente sì, è proprio un settore proprio tra i principali, se non sì, tra i principali dove c'è maggiore evasione. Mannaggia, Italia. Insomma, Fiorenza, la ringrazio. Dopo il traffico Papagni dovrà replicare anche su questo, Non so quanti sms ci arrivano al 349-238-6666 a dire: in Grecia e Spagna i lettini costano la metà che in Italia, spiagge libere ovunque, isole greche, due lettini 5 euro, l'80% delle spiagge libere, per esempio, ci scrive Walter. Papagni, però qui l'accusa è quella di essere il primo settore, addirittura dice l'ascoltatrice, dove questo è più facile non va bene, ma non è vero, insomma, assolutamente no. ripeto, fin tanto che non c'era lo scontrino fiscale, forse qualche cosa di maggiore, di evasione poteva esserci. Oggi siamo sottoposti, dicevo, allo scontrino, chiedetelo per cortesia, chiedetelo, è una richiesta che abbiamo fatto ormai, insomma, fortissima alla parte politica, è quella di metterci nelle condizioni di avere le quotazioni come la Grecia. Io la farei molto volentieri, un lettino, ripeto, in Grecia paga il 4%, noi il 22%, quindi un lettino io lo potrei far pagare 6 euro invece che i 10 euro. Sì, che le tasse, queste maledette tasse. Quindi, vabbè, insomma, su questo siamo... E per concludere, che avete contro la direttiva Bolkestein? No, ma guarda, dobbiamo fare chiarezza perché è un'occasione straordinaria questa. Noi siamo per l'evidenza pubblica, non abbiamo problemi. Io il mio stabilimento ce l'ho in evidenza pubblica, cioè ho vinto la cosiddetta gara da sempre, dal 1931, la mia famiglia ce l'aveva prima, oggi lo gestisco io. A questo punto ho vinto 25 anni di concessione perché ho presentato un piano di investimenti, sì, di 6 milioni da ammortizzare nei 25 anni, ho fatto una miglioria straordinaria e quindi quello è tanto quanto noi vogliamo. L'articolo 18 del codice della navigazione dice proprio questo: mettiamo le concessioni in condizioni che chi fa gli investimenti ha un periodo congruo. Noi abbiamo chiesto dai 30 ai 50 anni. Ma così va contro la liberalizzazione che vuole Bolkestein? Perché, no, la Comunità Europea, tra l'altro, e qui c'è un altro aspetto che dobbiamo mettere in evidenza, parla dell'area. Sì. Che quando noi abbiamo un complesso balneare di piccola, di media, di grande dimensione, dobbiamo pensare che l'area è quella che deve andare ad evidenza pubblica, deve andare a gara, come si dice, ma la sopra azienda, il sistema, la clientela, i lettini, gli ombrelloni, le strutture, non sono dello Stato. Non è così facile dire domani mattina va tutto in evidenza, quindi io arrivo, offro il doppio del canone e mi porto via l'azienda. Non è pensabile che portiamo via aziende che sono state costruite magari in due generazioni. No, ma è chiaro, e questa quindi è... deve essere un'equità. Ma infatti, vista, ma no? Forse la proposta dell'assessore Cascino potrebbe essere. Comunque è un tema che riaffronteremo, l'estate è lunga. Vi ringrazio per il momento, Gabriele Cascino, assessore regionale alla pianificazione urbanistica Regione Liguria, e Renato Papagni, ricordo, presidente di Feder Balneari Italia. Grazie per essere stati con noi. Per concludere questa prima parte di 24 mattino, poi andiamo avanti fino alle 9.30, come sapete è una settimana che si dice decisiva. Io sorrido un po' per la riforma del Senato, di decisivo non c'è nulla, ma c'è qualcuno che sorride, l'abbiamo voluto chiamare forse per questa riforma del Senato, è il senatore Karl Zeller della SVP, sul Tirol e Fox Partai. Buongiorno senatore. Buongiorno. Benvenuto, dico sorride perché ho scoperto che voi in Trentino Alto Adige ce l'avete fatta, nel senso che il Trentino Alto Adige quanti senatori nel nuovo Senato, quando sarà di 100, porterà come regione? No, da noi la base del consenso popolare sono le due province autonome, che sono le uniche province che hanno anche competenza legislativa. Sì. Nella nostra regione l'ente regione ha pochissime competenze legislative, pochissime competenze amministrative, per no, cui è chiaro. È tutto stato, le nostre province, anche dalla giurisprudenza costituzionale, sono da sempre parificate alle regioni, per cui questa riforma costituzionale, dove saranno gli enti legislativi del territorio a determinare i rappresentanti in Senato, e saranno quattro. Due da Trento e due da Bolzano. Sì, perché? Per questo motivo, perché da noi non è l'ente regione che determina, che decide, ma certo le province. Sono le province, no, ma è chiaro, cioè, non si spiegherebbe. No, ma infatti, cioè, nel senso che ricordiamo, lì c'è l'autonomia, quindi la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, ognuno manderà due rappresentanti al nuovo Senato. Qualcuno ha fatto notare che se fosse una regione di pari grandezza rispetto all'insieme di province di Trento e Bolzano, ne manderebbe due. Voi il doppio perché avete due province autonome, diciamo, Sì, e poi c'è anche il tema della rappresentanza dei vari gruppi linguistici. Nel nostro territorio convivono tre gruppi linguistici, abbiamo anche un accordo internazionale che sta alla base della nostra autonomia, che prevede la tutela di questi diversi gruppi. Se dovesse scegliere la regione, per esempio due per la sola regione, è evidente che tutti questi principi non potrebbero essere salvaguardati. Vabbè, ma è una buona conquista che avete fatto, senatore Zella. Lei e il collega Palermo, sì, Palermo. Noi ci siamo tutti per questo, il governo ha da sempre riconosciuto questa nostra impostazione, che sono le enti di riferimento delle nella nostra zona, devono essere due province autonome, e così siamo arrivati a questo risultato. Poi ci sono altri punti di questa riforma che non ci piacciono affatto, per esempio la controriforma del 2001 non è che ci piace molto, perché già all'epoca ero in Parlamento, dei fattori di questa riforma del 2001, e non credo che il titolo quinto, così come rimodellato, sia per le regioni ordinarie. Però lei la voterà, perché, diciamo, qualcosa da modificare, si vedrà il dibattito in aula, ma l'impianto della riforma le piace? No, altri punti li condivido, per esempio il Senato non eleggibile per noi è una cosa giustissima, perché da sempre come autonomisti abbiamo chiesto di trasformare l'Italia in uno Stato federale, e in questo il sistema non elettivo del Senato è uno degli elementi che ci... Poi il titolo quinto, con quello avevamo il nostro problema, però siccome è passata anche la clausola di salvaguardia che non si applicherà alle nostre autonomie speciali, anche su quel punto abbiamo trovato un accordo col governo. Mi faccia un suo pronostico, passerà questa riforma, e se passerà la prima lettura al Senato come vuole Matteo Renzi nel giro di 10 giorni, addirittura 15 giorni? Io penso di sì, perché c'è al di là del falso problema, secondo me, della elettività o non, c'è una convergenza sui punti salienti di questa riforma, e il Senato la voterà, anche se i tempi per l'entrata in vigore di questa riforma che ho letto sui giornali. Ci vogliono quattro letture, Senato, Camera, prima del 2016, non credo che sia possibile, anche perché molto probabilmente ci sarà un referendum che porterà via più o meno un altro anno. Cioè stiamo dicendo corriamo a prima del 2016, effettivamente non questa riforma, se tutto va bene, non ci sarà. Anch'io credo così, poi siccome è sempre detto che la legislatura deve durare fino al 2017-2018, arriviamo lì e poi si voterà, perché è chiaro, una volta entrata in vigore questa riforma si deve andare al voto, perché abbiamo già un Parlamento con dei rappresentanti eletti in base ad una legge elettorale che non è più costituzionalmente illegittima. Se poi avessimo anche la riforma già passata, esatto, la riforma del Senato col Senato vecchio, no, sarebbe un pasticcio. Ma guardi, è stato chiarissimo, io mi devo fermare perché sennò sforo in questa parte del tempo di giornale radio. 24 mattino. Sono le 9:06 minuti, come sapete il nostro nuovo orario va fino alle 9:30, sono Alessandro Milan, rimarremo insieme, e allora vi ricordo che adesso parleremo di quello che succede in Medio Oriente, ma soprattutto parleremo di un aspetto particolare. Prima però, ovviamente, mentre noi siamo qui a parlare di riforme, di Senato, di politica, i mondiali di calcio, in Medio Oriente, come sapete, purtroppo continua la guerra. Gaza si racconta di 172 ormai morti e oltre 1000 feriti. Israele invece, forte di una indiscussa superiorità militare, ferma e distrugge col proprio sistema di difesa tutti i razzi. Sono centinaia di razzi che sono partiti in questi giorni nella striscia di Gaza per andare a colpire indiscriminatamente città e quindi civili, anche presumibilmente in Israele. L'ultima notizia addirittura di un drone partito colpito dalla striscia di Gaza, cioè questi oggetti telecomandati, che è stato distrutto e intercettato dall'esercito israeliano. Io intanto voglio salutare Barbara Schiavulli, reporter di guerra. Barbara, buongiorno. Tu di queste tematiche ti sei molto occupata. Che effetto ti fa vedere che siamo ripiombati nella solita spirale di violenza? Non ce l'abbiamo in linea Barbara Schiavulli? No, adesso proviamo a recuperarla. Come detto, sono tante gli attacchi e ripeto, le agenzie parlano di 172 morti dalla striscia di Gaza e oltre 1000 feriti. Volevo sentire prima Barbara Schiavulli, se no passiamo al tema successivo sempre con lei e con i successivi ospiti. Ecco, l'abbiamo recuperata. Barbara, ci senti? Buongiorno. Buongiorno a voi. Che effetto ti fa sentire di spirale di violenza continue in Medio Oriente? Guarda, l'effetto ovviamente è pessimo, mi dispiace moltissimo non poter essere lì. La situazione giorno per giorno diventa sempre più drammatica e sembra che non ci sia via di uscita se non quella di decine e decine di morti, come ogni volta accade quando succedono queste cose. Ovviamente quello che si teme è soprattutto l'invasione via terra, l'entrata in terra da parte dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. Sarebbe quello, secondo te, un punto di non ritorno molto grave, perché vorrebbe dire, come dire, dopo il ritiro di qualche anno fa, tornare a una situazione di lotta sul terreno, una situazione, come dire, che non vorremmo vedere, un punto di non ritorno. Sì, anche perché poi che senso avrebbe entrare dentro Gaza? Che cosa ci puoi fare dopo? E soprattutto un milione di persone vivono in una striscia di 40 chilometri, non hanno nessun posto dove andare, già un enorme campo profughi. Che cosa puoi fare di più o di peggio che non sia già Gaza? E quindi non so, poi entrano, prendono tutti quelli di Hamas, cioè qual è la soluzione a tutto questo? Riportare l'occupazione su Gaza, mettere dentro i soldati israeliani che controllano? Non è chiaro il futuro di questa operazione. Ma su questo devo dire che in quei territori purtroppo di futuro si parla sempre in maniera speranzosa, come possa arrivare la pace, ma poi ciclicamente purtroppo si ritorna in qualche modo indietro in questi avvitamenti militari, o no? Assolutamente sì. Io credo a questo punto ci sia anche un interesse politico soprattutto a magari distogliere da altri problemi interni la comunità israeliana. Succede spesso anche in altri paesi, mi viene in mente per esempio l'Iran, quando c'è qualche problema interno non dico che si crei, ma comunque si fa percepire una sorta di minaccia e il popolo si stringe intorno ai governanti, comunque e sempre, perché quello che accade. Però questo a discapito di altri. Allora, tra l'altro, questo è il punto di partenza inevitabile, perché la cronaca impone di parlare di questa situazione, ma io ti ho chiamato, ti abbiamo chiamata insieme a un altro ospite che tra poco saluto, perché vogliamo parlare di un altro fenomeno magari minore, che sotto traccia si espande, che però a mio modo di vedere è abbastanza inquietante. Tu ne hai scritto un reportage di recente dal titolo "Conquisteremo l'Europa", conquisteremo l'Europa sul giornale.it, cioè si è andata a scovare tutta una serie di persone che, convertite al jihadismo, prima sono convertite all'Islam e poi alla militanza armata, hanno deciso anche da paesi europei di andare in teatri di guerra, soprattutto in Siria, per portare avanti il jihad, cioè la guerra santa, o così, Barbara? Sì, è un fenomeno marginale ma molto interessante, secondo me, anche perché in Italia se ne è parlato pochissimo, però in realtà i numeri sono abbastanza alti, perché sono almeno 3.000 ragazzi che sono partiti, e parlo di adolescenti, non adulti, insomma ragazzi sui 20 anni, 18, 20 anni, che partono dall'Europa e sentono fortemente questo bisogno di partecipare a quello, soprattutto in questo momento in Siria, ma molti si stanno spostando anche verso l'Iraq. Quello che accade però purtroppo non vanno solo ad affluire le file dei ribelli, ma soprattutto quelle degli estremisti islamici, quelli dell'ISIS che adesso stanno un po' conquistando l'Iraq. Soprattutto al nord dell'Iraq. Lasciami salutare allora Lorenzo Vidino, che è esperto di terrorismo islamico al Politecnico di Zurigo. Buongiorno Vidino e benvenuto. Buongiorno, grazie mille. Allora, quante sono queste persone, visto che lei ne ha scritto di recente anche ha scritto una ricerca, oltre che aver scritto un libro su questa tematica, quante sono le persone dall'Italia, se vuole, ma anche dall'Europa che così abbagliate da che cosa, poi ci aiuti a capire, si spingono fino a queste estreme decisioni? I numeri sono molto difficili da stimare, perché chiaramente anche i servizi brancolano abbastanza nel buio. I numeri più o meno per quanto riguarda l'Europa sono stimati attorno ai 3.000, come dicevate voi prima, con paesi come la Francia e l'Inghilterra che forniscono 500-600 militanti. Paesi anche più piccoli come il Belgio, la Danimarca hanno anche numeri altissimi, in Belgio si parla di 300. L'Italia è toccata da questo fenomeno pari in maniera molto minore, in Italia si parla di una dozzina di casi, chiaramente non si può sapere quello che non si sa, può essere che esistano casi di cui le autorità o di sicuro il grande pubblico non siano a conoscenza. Sul perché vadano è chiaramente una tematica molto complicata, fa parte di quel punto di domanda sul perché la gente si radicalizzi, perché si diventa terroristi. Chiaramente non voglio fare una matematica equazione tra andare in Siria e diventare terroristi, però come diceva Barbara è una dinamica comune che la maggior parte di questi soggetti si unisca a ISIS, a Jabhat al-Nusra, ai gruppi jihadisti. Beh, insomma, cioè, perché andare in Siria per fare vacanze adesso mi sembrerebbe un po', o per fare un viaggio culturale. Però è importante differenziare tra i soggetti che ad esempio sono siriani e si recano a combattere con Free Syrian Army, con i vari gruppi di liberazione nazionale, è una cosa tematica molto diversa da quello che è il ragazzo non di origine siriana o i convertiti che viene attratto dall'ideologia jihadista. Vuole costituire uno Stato islamico in Siria e in Iraq. Questo è il fenomeno che preoccupa di più, chiaramente. Questo certamente. Per esempio, si è molto parlato in questi giorni di tale Musa Cerantonio, italiano, però nato in Australia da padre calabrese, evidentemente emigrato, e madre irlandese, convertito all'Islam e considerato uno dei predicatori del jihadismo più influenti in questo momento, ovviamente tramite social network, quindi tramite le TV, tramite internet, tramite Twitter, e che si troverebbe addirittura adesso in Iraq. Chi è Musa Cerantonio, Vidino? Su Cerantonio in realtà la novità è che è stato arrestato recentemente nel weekend nelle Filippine. Quindi non era in Iraq? No, Cerantonio, esatto, si è creato, e questo dimostra un po' come tutto sia difficile analizzare queste dinamiche che avvengono spesso online. Cerantonio si è ritagliato uno spazio notevole sui social media, parlando inglese, essendo di madrelingua inglese, tra i jihadisti occidentali è praticamente una delle figure di culto, di ispirazione di questi giovani di cui stiamo parlando che si recano in Siria, senza essersi mai recato in loco, perché comunque è un soggetto che ha vissuto gli ultimi 2-3 anni tra l'Australia e le Filippine, ed è stato arrestato nel weekend, adesso verrà estradato in Australia. Anche un soggetto che è venuto in Italia un anno e mezzo fa e ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa da chiaramente le fazioni più oltranziste, diciamo, dell'Islam italiano, quindi ha un buon seguito anche in Italia, essendo bilingue, parlando un italiano un po' improvvisato, però comunque parla italiano, ha avuto un buon seguito anche in Italia. Ho capito, da parte di questa nicchia. Ecco, bisogna capire quanto, voglio dire, ci aiuta a capire quanto sono influenti e quindi quanto pericolosi, o quanto rientra, come dire, in scelte personali anche legate in alcuni casi, come dire, non tutti siamo con la testa a posto, ecco, io la dico brutalmente così, però non tutti siamo per questo pericolosi, influenti, certo, o creiamo costituiamo un pericolo fondato, o invece in alcuni casi un pericolo molto limitato, se non altro alla persona stessa. Quanto invece c'è da temere questo tipo di fenomeno? È difficilissimo da sapere. È chiaro che parliamo di un fenomeno di nicchia, quando non dobbiamo assolutamente pensare che la maggioranza dei musulmani in Italia, come in qualsiasi altro paese, adottino questo tipo di ideologia. Se uno guarda sui social network in Italia, su Facebook, trova un piccolo mondo di qualche centinaio, mettiamo di un migliaio di soggetti che chiaramente simpatizzano con l'ideologia jihadista. Questi sono soggetti che sono o italiani convertiti o musulmani sociologicamente italiani, magari non avranno un passaporto italiano ma sono nati e cresciuti in Italia. È chiaro che tra questo migliaio di simpatizzanti la maggior parte rimarrà jihadisti da tastiera, non farà il passaggio alla militanza violenta, non andrà in Siria, non cercherà di compiere attentati in Italia. Però è chiaro che è da questo humus che viene il caso, quei 2, 3, 10, 15 casi di soggetti che qualcosa fanno. Il buon del Nevo, l'italiano convertito, il genovese convertito che è andato a morire in come no, ospitammo il padre in una trasmissione. Ospitammo il padre disperato, ovviamente, però disse: mio figlio credeva molto in quello che faceva. Non era un modo ovviamente per giustificare, soprattutto da padre che aveva perso il figlio, ma credeva molto in quello che faceva, è andata a morire in Siria. Certo, chiaramente i motivi sono da cercare, in ogni caso va analizzato individualmente. Esistono soggetti che, e Del Nevo ha un percorso molto lungo di militanza, di studio, non è un soggetto che è partito dall'oggi al domani, ci sono 4-5 anni di militanza e di una ricerca teologica profonda che poi può portare a risultati che la maggior parte dei musulmani può non condividere, ma c'è una ricerca. Esistono gli avventurieri, esistono soggetti che dall'oggi al domani si convertono e partono. Abbiamo un caso in Svizzera dove lavoro io di un soggetto che si è convertito a giugno, a settembre è partito per la Siria. Beh, è chiaro, in quei casi sono decisioni personali, ognuno è libero e proprietario del proprio destino. Barbara Schiavulli, tu sei andata anche a Londra nella comunità islamica dove c'è una percentuale anche, e vorrei che tu ci aiutassi a capire quanto ampia, di persone che professano anche il dovere di passare alla Sharia, il dovere del jihad e quindi della guerra santa. Alcuni sono anche disponibili in audio sul giornale.it e si possono anche sentire. Queste sono per esempio interviste che tu hai fatto. Che persone hai incontrato e che cosa dicono? A me è molto inquietato nel sentire quella che è la traduzione che tu proponi sul giornale, cioè si parla di legittimità della guerra santa contro l'Occidente in maniera molto, molto serena, molto banale. Sì, io ho incontrato degli individui particolarmente radicali come Chaudhry, che è considerato un po' il simbolo del radicalismo in Inghilterra e che gira anche per tutti i paesi europei. Lui dice che è contrario alla democrazia e che è per l'instaurazione della Sharia. Parlo di persone che ovviamente sono estremiste, quindi non parlano per tutta la popolazione musulmana, che invece è poco sentita ma schierata all'opposto. Poi ho incontrato delle donne, molti vengono anche radicalizzati in prigione, molti ragazzi. E ho incontrato delle signore che hanno studiato, hanno fatto l'università e sono diventate comunque radicali estremiste islamiche e hanno mandato i loro figli a scuole radicali perché dicono che il sistema inglese di istruzione, parlando di darwinismo, di comunque di giustizia, di parità tra uomini e donne, loro non si sentono di mandare in queste scuole. Siccome molte delle dichiarazioni che tu hai riportato sono anche al limite, a mio modo di vedere, dell'istigazione alla violenza, cioè non si esclude la necessità in alcuni casi di fare attentati perché potrebbero essere effetti collaterali di colpire l'Occidente, come è possibile che possano fare queste dichiarazioni in estrema libertà? Va tutto bene? Cioè è la libertà di pensiero delle democrazie occidentali che deve tollerare tutto questo? In parte sì, in parte no. Tutti i soggetti che io ho incontrato, poi sono stata anche a Scotland Yard a sentire l'antiterrorismo, erano tutte persone conosciute, alcune erano già state in prigione per questo motivo, per apologia del terrorismo. Chaudhry invece, che forse è appunto una delle autorità più conosciute, è uno che riesce a stare al limite, non parla ma senza dire troppo. E tra l'altro, mentre lo intervistavo in un caffè vicino a casa sua nell'est di Londra, un po' fuori, lui cercava, si vedeva dei ragazzi e cercava in qualche modo di coinvolgerli nella nostra discussione, che faceva francamente venire un pochino i brividi. Cioè cercava di fare proselitismo così, in presa di diretta. Ecco, esatto. Bisogna capire quanto, anche tu confermi come Vidino che è un fenomeno di nicchia, però quanto preoccupante, per capire quanta presa hanno nella comunità a cui tendono a parlare. Vidino, lo scarto tra il diventare violenti e farlo solo invece sulla tastiera del computer è altissimo, ci vuole, deve scattare comunque qualcosa. Tra l'altro, l'altro fenomeno che è interessante è che quasi tutti questi ragazzi che poi sono partiti si sono autoradicalizzati, ormai è una cosa che si fa tutta al computer, attraverso internet. Una volta forse c'erano i reclutatori, spesso nelle moschee a scuola, molti di questi ragazzi neanche frequentano le moschee. Sono ragazzi che fanno tutto da sopra e in loro vanno a cercare qualcuno che li coinvolga e che li aiuti magari a entrare in Siria. Proprio per questo sono arrivata sul confine siriano, dove ho incontrato dei ribelli siriani che invece dicevano, invitavano questi ragazzi a restare a casa, perché non, dicevano, non vengono ad aiutare la causa contro il dittatore, per loro dittatore siriano, ma si uniscono agli estremisti e poi noi dobbiamo combattere anche contro di loro, quindi è meglio che se ne stiano che a casa. Se ne stiano a casa. Va bene, sentiamo qualche ascoltatore, immagino, sulla questione più generale in Medio Oriente, una situazione davvero brutta, una situazione di morti quotidiani. Claudio dalla provincia di Torino, buongiorno Claudio. Buongiorno, volevo solo chiedere alla signora, mi pare Barbara si chiama. Barbara Schiavulli, sì. Esatto, Schiavulli. Come mai non parla mai delle migliaia di missili che partono dalla Palestina, da Gaza, e che cadono su Israele e non hanno ancora fatto i morti, perché gli israeliani hanno le capacità tecniche per difendersi? Che esattamente mi ha rubato. E come mai non parla di quei missili che sono stati buttati sulle centrali atomiche? Caro israeliane? Claudio, mi ha rubato l'introduzione? Esattamente sono le parole che ho usato io. Va bene, allora forse non ho capito. No, va bene, Barbara Schiavulli. Lei parla sempre dei missili su Gaza. Eccolo, non parla mai qua, del contrario. Qua io, allora, la premessa è questa, rispondo io, poi Barbara Schiavulli sa rispondere molto bene per se stessa. Tutte le volte che si parla di questa tematica, appena uno dice una virgola, sembra che venga interpretata stai da una parte e stai dall'altra. Nessuno sta con nessuno, si sta in un utopistico mondo per la pace. Nessuno giustifica un razzo lanciato dalla striscia di Gaza che cade verso Israele. Nessuno, caro Claudio, capisce? Nessuno, e tutti i giornali raccontano che sono, e l'ho detto anch'io all'inizio, centinaia i razzi lanciati dalla striscia di Gaza, ma siccome Israele ha una superiorità militare indiscussa, Israele riesce a intercettarli e a distruggerli, fortunatamente, e quindi non ci sono morti dalla parte israeliana, per ora, e speriamo che non ce ne sia neanche uno. E purtroppo a Gaza invece sono militarmente meno bravi, e quindi lì ci sono i razzi. Comunque Barbara, rispondi tu all'ascoltatore. Guarda, sono assolutamente d'accordo, nessuno giustifica quello che sta facendo Hamas, che è una cosa tremenda. Per fortuna Israele è in grado di difendersi dall'arrivo di questi razzi, però questo non giustifica che dall'altra parte si debba continuare a morire, che si spari sulle case della gente. E rispondo già all'opposizione, sì, ma loro tengono le armi in casa. Sì. Va bene, cioè, e quindi allora è giustificato ammazzare donne e bambini? Secondo me no, neanche altri stati in altre occasioni sono mai arrivati a tanto. Cioè, Gaza non è che può avere depositi isolati e cosa. Gaza c'è una densità di popolazione che impedisce qualsiasi. Ma è sicuramente, no, ma è sicura, la domanda che tu poni è sicuramente da parte di Hamas, che ricordiamo è un'organizzazione terroristica, si utilizzano le case civili per nascondere le armi. Il problema è quindi cosa fare? Non è che c'è una risposta a tutte le domande. La risposta è quindi è legittimo bombardare perché si distrugge magari per uccidere un militante di Hamas che si nasconde in una casa di civili? È giusto? Non lo so, ognuno fa la sua. Noi qua facciamo le domande e la risposta non ce l'abbiamo, perché saremmo dei geni e poi una risposta univoca non c'è. Ma ci dobbiamo fermare qui anche per oggi. Io ringrazio, magari della questione medio orientale parleremo anche nei prossimi giorni. Ringrazio Barbara Schiavulli, ringrazio Lorenzo Vidino, che ci hanno aiutato a capire qualcosa di più anche di questo mondo molto particolare, insomma, il jihadismo made in Europe, diciamo così. Ci fermiamo, Giorgio De Luca oggi in redazione insieme a Alessandro Marco Tulli, Elisabetta Fusconi e il nostro Peter Bescapè, quella roba lì, Bescapè, in regia. Ci ritroviamo domani puntuale alle 6:30.